Va bene, cominciamo. Ora sono Allora. online anch'io, puoi cominciare a fare la sigla. Ok. No, non c'è Devo ancora. fare un balletto, non... Salla, io farò la sigla per l'altra fine settimana. Sono arrivato a tre scelte per la canzone. Ma è sempre scoppiazzata qualcosa. Certo, copyright a tutto spiano proprio. Avremo la sigla almeno originale. Allora, benvenuti a tutti, a chiunque ci stia ascoltando, alla terza puntata di Crossed Destiny, la nostra campagna di D&D quinta edizione. Ricordiamo, anche se probabilmente lo sapete già se ci avete trovato, siamo su ripgdr.wordpress.com, per farci un po' di pubblicità. Cominciamo con un piccolo riassunto. Questa sera ci mancherà un giocatore, purtroppo. Il riassuntista doc. Aspetta, ci mancherà in che senso? È Gianfo non c'è. Ah, cioè nel senso che manca, Nel assente, sì. senso che manca. Poi ognuno ha sentimenti contrastanti Esatto. riguardo. Allora, nello scorso episodio, i nostri eroi si risvegliano in maniera brusca, diciamo, quando il loro accampamento viene assalito da una banda di loschi figuri vestiti di nero che creano. Scusate, ma merda, è arrivato, sembrava un disabile. Avevo Era così. tante robe tra le mani. Non c'è jump, però vabbè, niente, così. Però Ok, non volevo. dicevo, i nostri eroi si svegliano dopo che il campo è stato assalito da una banda di loschi figuri vestiti di nero che sembrano essere spuntati dal nulla per attaccarli. E dopo una resistenza valorosa, vengono scacciati dal campo. Ma cosa? Sto Sono arrivato con un cazzo, giusto per sicurezza, qual è il numero di telefono dell'ambulanza francese? Niente, sono fottuto. Meno che arrivano qua, io sono morto da tipo ore Mai? e ore. Ok, scusate, oggi sono in modalità fastidio tipo jump. Vabbè, ci serviva uno, Senti, se ne tranquillo. manca uno. Esatto. Allora, Dai, poi Waterdeep. piano, piano, piano, sto facendo il punto della situazione anch'io, tranquillo. Anch'io oggi è venerdì, è stanchetto oggi, È un po' tutti. è da mezzogiorno che sono in università. Tornato l'app, cos'è sta cosa? Saranno i grafici. Allora, ripartiamo bene. Benvenuti, di nuovo, alla terza puntata di Crossed Destiny, la nostra campagna di D&D quinta edizione. Riprendiamo la nostra storia facendo un riassunto della scorsa puntata. Dopo che il loro campo è stato assalito da una banda di figure vestite di nero, i nostri eroi hanno combattuto insieme agli uomini dell'alleanza dei Lord per respingerli. E ci sono riusciti. A un certo punto le figure, a un segnale concordato tra di loro, sembrano ritirarsi dalla miniera. Scoprono presto però qual era il loro obiettivo. Sembra che puntassero agli appunti dell'elfo oscuro che avevano ucciso dentro la miniera. E il povero assistente del Magister Westar è stato ferito, non gravemente, ma ha visto giorni migliori. E il libro che conteneva i suoi appunti, rubato dalle queste figure. Non tutto è perduto, però, perché a quanto pare l'assistente è riuscito a fare una copia di questi appunti e nasconderla ai ladri. Così i nostri avventurieri si ritrovano in un consiglio segreto, insieme agli altri membri dell'Alleanza dei Lord, e discutono di quello che hanno scoperto, di come dietro a questi avvenimenti si celi l'opera di una organizzazione che si sta espandendo, diciamo, nel Faerûn, una certa Daha Koan, la stirpe di drago, e che in qualche modo essa sembra essere legata alle storie e ai destini dei nostri protagonisti. Scoprono inoltre che gli appunti che erano contenuti nel libro del Foscuro riguardavano strani esperimenti sul infondere la magia in esseri che prima non ne possedevano. E infine decidono di stringere un'alleanza con i loro nuovi amici, diciamo, con la Lord's Alliance, per continuare le loro ricerche e indagini su questo gruppo di maghi e stregoni. La loro ricerca quindi li porta a Waterdeep, the City of la città degli splendori, che è una delle più grandi città del Faerûn, dove si dilettano in un po' di shopping, perché voglio dire, ci vuole ogni tanto una... A proposito di shopping, io volevo il bastone di Jump, cosa devo fare? Tu? Aspettavo questo momento, da sessione a sessione. dove si dilettano, dicevo, in un po' di shopping, chi compra armature, chi compra pozioni, e tutto prosegue tranquillo, fino a che in mezzo alla folla Paire sembra notare qualcuno. Sembra notare suo fratello, perduto ormai da parecchio. Ma è vero che i tuoi si erano riprodotti di nuovo? Ma quanto pare. Che mi è uscita male. Quindi, la scena è questa. Siete appena usciti da alambicchi e... No, come ti avevo chiamato? Era... Pozioni e pozioni. No, era ampolle e alambicchi, il negozio di pozioni. Tycoons and Dragons. E niente, stavate attraversando, stavate camminando in mezzo alla folla quando una figura vestita di nero ti sbatte contro di te, sembra senza accorgi, senza volerlo. Cazzo, è vero che è al contrario. E tu ti accorgi che la tua mente ti richiama, come dire, fratello, sembra che ti viene un attimo in mente l'immagine di tuo fratello e ti chiedi chi sia quella figura che adesso lentamente si sta allontanando da te in mezzo alla folla. Ok, riesco a... addosso. Sbam! Muovi il culo, dai! Intanto Gianfe sta guardando... non Gianfe, Gallifrey sta guardando una vetrina incantato da... Sì, tipo degli animaletti meccanici che Madonna, si muovono. Lo fai veramente bene. È proprio poi lui. Regali, compriamo uno, Cast of Friends. La figura si sta lentamente allontanando in mezzo alla folla. Se mi giro non lo vedo più oppure lo vedo ancora? Lo vedi perché comunque torreggia abbastanza sopra la folla, sopra di una buona ventina di centimetri l'altezza media di quelli che gli stanno attorno. Quindi vedi una figura incappucciata di nero con effettivamente un corno che spunta dal lato destro del cappuccio. Allora provo a inseguirlo e a fermarlo. Cerchi a un certo punto di muoverti nel verso opposto a quello a cui si muove la folla, e la figura nel frattempo si sta comunque allontanando, quindi sei un attimo rallentato. Okay. Vedi che la corsa si segue, provi anche a chiamare il nome di tuo fratello, ma sembra che non ti faccia risposta. Voi altri lo seguite o... Non puoi accedere a questo ricordo in questo momento. Praticamente. Ma... fa spendere. Io non mi ricordo dove stavo in questo momento. Perché ho... Eravate tutti usciti siamo da... tutti dietro di lui, infatti si è fermato e gli ho sbattuto addosso. Ok. Vedi a un certo punto Pyre che inizia a correre indietro e a chiamare. Ditemi solo voi altri cosa fate, se lo state... lo seguiamo, cioè io lo seguo. Posso usare Thunder Wave per spostare la folla? Fammi cioè, è allora, puoi farlo assolutamente, ma sai anche che la cosa potrebbe probabilmente uccidere una o due, o anche più di una persona. Cioè, non c'è lo stun setting, diciamo, su Thunderwave? No. No, non so cosa fare, perché non posso volare. Sì, sono un pyre. Cercate di farvi largo tra la folla, ma essendo una giornata abbastanza affollata, ormai sono intorno all'ora di punta, diciamo, in mezzo al mercato, sì, proseguite a fatica. A un certo punto la figura misteriosa, la figura svolta l'angolo. Anche voi avete notato a questo punto che Pyre sembra essere interessato a questa figura incappucciata con... E che sta cercando di seguirla. Pyre, fammi un tiro di percezione. 20 naturale. Ok. No. Quando il master non c'è, si bara. Vabbè, te lo posso far vedere, ma tanto. sì, guarda. Mi fido. Noti che questa figura non cammina da sola in mezzo alla folla. Sembra anch'essa. Sembra anch'essa seguire un'altra figura incappucciata, questa più bassa. Sono due figure incappucciate, non è che... Tassista, sei come il tassista. Allora, figura incappucciata 1, figura incappucciata 2. No, la figura incappucciata 2 non l'hai notata subito, perché effettivamente è alta quanto un normale, come un altro umanoide di dimensioni non superiori come le vostre, diciamo. Ok. E sembra, certo, che quello che tu credi essere tuo fratello stia seguendo questa figura incappucciata. Marco, una domanda. Io non so se c'era il manuale, perché non è un animale molto utile. Posso trasformarmi in una scimmia? Sì, c'è nel manuale. Sì, c'è nel manuale. Ah, c'è? Okay. Non credo tu l'abbia mai vista come persona, ma c'è... Come no? Beh, dai, sono un genasi. Lo zoo, dai, dillo. Il famoso zoo di Waterdeep. Ci sono i panda e gli unicorni. So se è una scimmia, ma devo averla vista per potermi trasformare? L'idea sarebbe quella. Dai, va bene, avrà visto. Puoi farmi un tiro di intelligenza, magari. diciamo, non ti riesci, non ti viene in mente la scimmia. Ricordi tipo, magari uno scoiattolo, forse, ma... Beh, dai, un ragno. Fammi un tiro... No, cioè, il ragno l'hai visto. Ragno, sinceramente, l'ho visto, perché l'abbiamo pure ucciso un paio. Che no, voglio riuscire a arrampicarmi. Un ragno gigante o un ragno di quelli... Un ragno bello grosso, così mi arrampico sui muri e seguo i tizi. Ok. Evitando la folla, insomma. State cercando di farvi largo tra la folla che... però un po' si muove contro di voi, quando a un certo punto Gino si trasforma in una... vedi l'etere, la magia che lo avvolge, dove prima c'era Gino, ora si trova un ragno di grande quanto una persona, probabilmente gli umani potrebbero cavalcare. Quel tizio col gufo, che coglioni! Cosa? E... la folla a questo punto inizia a urlare e a scappare in tutte le direzioni, perché un ragno gigante è apparso in mezzo alla strada. Giustamente. Ah, giusto, ottima domanda. Ma sto gufo che cosa fa? Ah, il mio gufo è impagliato. È impagliato, ok. No, vabbè, ma a questo punto puoi farlo che è impagliato, nel senso, dici è impagliato, tutti quanti lo guardiamo. La prima stagione, la seconda stagione, l'hai ucciso, l'hai impagliato? Però... ogni tanto gli do da mangiare, starne... cade tipo così. Che porca. Ti mangia e c'è lì morto tipo. è un ex gufo, è fumissimo. Sì. Ok, io faccio finta che di non conoscere il ragno e vado dritto verso Pyre. Sì, a questo punto non riesci più ad andare dritto perché la folla si agitata e inizia a correre in tutte le direzioni cercando di fuggire dal ragno che ottima è mossa, druido. Imperso in mezzo alla strada, e a questo punto ti accorgi che anche le due figure in nero che sto seguendo sembrano accorgersi della situazione e accelerano il passo allontanandosi da voi. Grande idea. Senti, io ho agito. Ditemi se volete. Provo a farmi largo proprio spingendo la gente per cercare di raggiungere. Cioè, anche, la butto anche a terra, non me ne frega niente, però voglio raggiungere gli incappucciati. Ok, puoi fammi un tiro di acrobazia per vedere come riesci a districarti tra la folla. 17. Intanto anche Gianfe, che era la Gallifrey, che era rimasto un attimo a guardare le vetrine, dice: oddio, c'è un ragno gigante in mezzo alla strada. Oh. Dimmi, scusa. 17. Riesci a farti strada tra le persone e continuare a seguire le due figure in nero. Io senza perdere tecniche. Sì. Quanto sono lontani da me? In metri più o meno. In metri a questo punto da una quindicina di metri davanti a te. Easy. Vorrei fare una prova di saltare con i miei stivali del saltare. Per saltare. È vero che esci di fianco a Paire sulla folla. Di fianco a Paire? A Paire? Ok. Cioè superare la folla che mi mura e arrivare da Paire. Beh, Paire è tipo, è comunque tipo a 5 metri da te. Ah, allora fanculo, li uso per arrivare. Pensavo dicessi, dicessi le figure in nero. Sì, pensavo, pensavo fossero più lontane. E allora provo a saltare sulle figure in nero, su quella più avanti che vedo. Scusate, fammi una prova di... Atletica. Atletica. Cazzo, sei un grillo, che è? Quattro lachi. Prego. Quattro. Aspetta. Atletica però ho un più 7, quindi ho fatto 11. Beh. Ma non andare peggio. Devo andare peggio. Cerchi di prendere un po' di rincorsa, ma a questo punto la folla si muove in tutte le direzioni e nel momento in cui stai per fare lo stacco da terra, un contadino, comunque un passante, ti scontra addosso, capitolate però insieme. Gli faccio malissimo. Lui si fa malissimo, tipo, probabilmente gli hai rotto quasi un braccio, tu non ti fai niente perché sei... lanci giusto qualche imprecazione verso Folto. Sono interessato a sapere quello che fa Gino a questo punto. Perché... No, appunto, cioè, io, la mia idea è zombare su una casa e evitare proprio la folla. Insomma. Ken, che tu dovresti farmi un tiro penso di... Penso che se tu ti muovi la folla si apre, perché pur ti... Vabbè, allora cerco di raggiungere i due tizi incappucciati che probabilmente saranno anche loro, diciamo, in difficoltà in questo momento. Cioè, non troppo, perché la folla è iniziata a scappare intorno a te, loro stanno seguendo la folla il più lontano possibile da voi, comunque. E, niente, vi continuate ad andare. Fire, vedi che la strada si apre dietro di te quando un ragno gigante attraversa il vicolo. Vai insieme a Pyre? Stai tipo a fianco a Pyre? O... No, sono super, vado avanti dritto. Cioè... Quant'è la velocità di un ragno? Spero, vedo. Allora, che non mi sono mai trasformato ancora, quindi non mi ricordo. Dio, che coglioni. Aspetta, dovrei avercela anch'io da qualche parte. Vabbè, mentre lui la cerca. Vabbè, vorrei chiedere al tizio che ho abbattuto se si è fatto male. 30 feet sia a piedi che sul muro. Quindi... Il tizio, vedi che è confuso e spaventato, non sa cosa. come si accorge effettivamente di essersi fatto male, probabilmente gli hai slogato una spalla circa, e se ne accorge, però cerca di rialzarsi in piedi e continuare a scappare dal ragno. Vabbè, se tu vuoi, ciao. Non è molto interessato a questo punto, è completamente in preda al panico. Ciao, ciao. E voi proseguite, riuscite, sebbene la folla un po' vi impedisca, riuscite per almeno a seguire da lontano le figure che svoltano a qualche angolo, quando a un certo punto sentite delle voci intorno a voi, fate largo, e intorno al ragno arrivano tre guardie armate. È davvero una mossa notevole comunque. Si vede che sei un druido. Fire, tu vedi stare in città e civiltà è proprio il tuo forte. Fire, tu vedi il ragno gigante di fronte a te, che dovresti aver più o meno intuito che era comunque il tuo compagno di avventura, essere circondato da tre guardie. Ma loro, cioè, le guardie si interessano anche a me o solo del ragno? No, no, sono interessate solo al ragno. Cioè... Vabbè, me ne frego, vado avanti. Che? Sì, sembra sì, giusto. Riesce a seguire a questo punto di nuovo le figure che si muovono, cambiano via, a questo punto sembrano, fanno un tiro di investigazione. Cioè, allora seguo anch'io, Pyre. Hai fatto un altro 20? Non so se si vede, ma è 20 naturale. Sì, si vede, si vede. Sì, riesce a intuire a questo punto che le figure sembrano stia cercando di seminare qualcuno che le segue. Ah, le figure sembra che stiano cercando di seminare qualcuno? Sì, nel senso cercano di cambiare strada il più possibile, svoltare gli angoli senza farsi vedere troppo. Sembrano che lo facciano insieme o no? Sì, sembra che lo facciano insieme. Sembra che la figura più piccola, che rispetto, più piccola rispetto a Pyre, quindi si può dire di chiunque, la figura più piccola segue, cioè, come si dice? Detta la via, non mi viene il termine, non mi viene il termine che vorrei. Okay. Comunque fa strada la figura piccola e quella grande le sta dietro. Ok, e Pyre, quale devo fermare dei due? Beh, su quella, sulla prima, io mi occupo della seconda. L'incantesimo. Qual è la prima delle due? In questa... Cioè, la prima è quella che è davanti. Ok, Barbagianni, cosa fa intanto? Giusto per... Beh, io stavo seguendo Edo, cioè, dato che lui faceva largo con la folla, io sfruttavo questo spazio che creava per seguirlo senza impedimenti. Tu sei rimasto leggermente più indietro. Noti che Gallifrey si è fermato per insieme alle guardie per dar man forte alle guardie contro il ragno. Ok, bravo. Chi se ne frega. Già nelle sue mani si scatena del fuoco arcano. Tu dici quello piccolo o quello grande? Quello piccolo. Ok. Tu, piccolo, fermati. Blocca persone. Blocca persone, ok. CD? CD 14. È una volontà. Sì. Devo controllare una cosa. Era hold person, giusto? Sì. Sì, ma di questi qua per farmi attaccare ne ho una marea, quindi adesso li ricasto tutti, prima o poi si girerà. Tu lanci il tuo incantesimo. Ma la figura non sembra minimamente sotto la tua influenza. Beh, continua a muovermi comunque. Mm-hmm. Continuate a muovervi. A un certo punto... continuano a entrare in via. A un certo punto vedete che vi state allontanando dalle strade principali e iniziate a essere più in vicoli stretti. E più vi allontanate dalle strade principali, più effettivamente queste figure iniziano a correre stavolta, stanno iniziando proprio a darsi la gambe. Come e quella più grande dietro inizia a gettare, a far cadere casse e qualunque cosa trovi per impedirvi di continuare a seguirla. Infatti, okay, a un certo punto dovreste farmi un tiro di atletica per vedere se riuscite a tenere dietro. No, più acrobazia, visto che... più o meno la distanza è rimasta costante, una decina di metri circa, da voi. Però non intendono fermarsi, voi cercate di starle dietro e loro continuano a correre. Provo a chiamare ancora mio fratello. Gino, lei che fa? Che... Oh, torno normale. Cerco di farli, di tenerli occupati, diciamo. Le guardie? Sì. In che senso? Cioè, allora, torno, vabbè, per adesso torno normale. Ok, dalla figura di ragno riemerge la figura di Genasi dell'acqua. E le guardie restano un attimo... Continuano a tenerti in sottotiro, diciamo. Cioè, non mi avete visto un druido? Che cazzo guardate? No, hanno visto... trasformazioni e cose del genere, non è proprio duopo farlo in luoghi affollati e pieni di gente che può effettivamente entrare in panico e magari ferirsi nel fuggire, cose del genere. Loro capiscono che tu sei un druido, lo capiscono assolutamente, ma rimani comunque, ti tengono comunque sotto tiro con delle tengono comunque delle lance puntate addosso, perché non capiscono perché mai un druido dovrebbe trasformarsi in un regno gigante in mezzo a una strada affollata. Posso spiegare? Ti dico. Ti conviene farlo in fretta? Potrei metterci un po'. Andiamo a parlare da un'altra parte. Non è come credi. non è assolutamente come sembra. Oddio. C'è Gallifrey lì che... No, è stato tutto un malinteso, ecco, no? Bravo, lui sta venendo molto. Però. No, la prima che voi Gallifrey... non capite, ci mandano. Abbiamo qualcuno in alto che ci manda qui. Allora, prima che Gallifrey apra bocca e continui a parlare, dico: andiamo a parlare da un'altra parte. Gli faccio vedere l'anello, che vi spiego tutto alle guardie. Ok, le guardie rimangono un attimo... Vedi questo anello? In questo senso. Mi dispiace, che non volevo fargli male, sennò... E... Volevo fermare quel magliare. Un attimo solo, anche Barbagianni mi sono perso un attimo. Tu hai visto questa scena, però non ti ho chiesto se eri andato insieme a Pyre e John o eri rimasto indietro con Gallifrey. Mi hai detto tu che ero rimasto indietro, no? No, hai visto, volevo dirti che avevi visto che Gallifrey restava indietro. Devi dirmi tu cosa volevi fare dopo. No, ero rimasto indietro anch'io. Ok. Tornando un attimo da John e Pyre, fatemi un tiro di acrobazia per vedere se riuscite a stare dietro alle figure. Acrobazia vuol dire che posso fare atletica o saltare? No, perché a questo punto è più cercare di evitare le casse che vi tirano addosso. Saltassi. Ta-ta-ta. No, cheat, perché è più acrobazia in questo caso, non è un salto in lungo o cose del genere. No, devi... ma io salto tipo 54 piedi, sono tipo 20 metri. Cazzo di power, okay, ma di nuovo adesso siete in un vicolo stretto che... Ah, va bene, tira 19. Stasera è bello, Edo mi sa che abbiamo svantaggio, te lo dico. Ah sì? Ah, perché abbiamo l'armatura pesante? Non lo so, no, è solo su stealth lo svantaggio dell'armatura pesante. Allora abbiamo vantaggio forse. No, avete un tiro e basta. Cosa, destrezza? Sì. Beh, direi 9. Ok. Pyre, tu vedi una vera e propria colonna di casse e barili che a questo momento vi sta cadendo addosso, ma con un agilità animale quasi, riesci a tipo fare il limbo sotto di esse, fai la Matrix e passare sotto senza fermarti. John è un po' meno fortunato, John rimane un attimo impigliato nei pezzi di legno, nei pezzi di legno. Non ti sei fatto nulla, però queste casse ti fermano un attimo. Okay, e le figure continuano. Azione bonus, però, provo lo stesso a fare un compelle duel sullo stronzo davanti. Ok. Sì, sempre tiro salvezza su Wisdom. Sì. Anche qua devo... Sempre su quello piccolo o quello grande? Quello piccolo. Ah, viene a picchiare, stronzo. Sembra che per un attimo sembra fermarsi e puntare verso di te. Bravo. Ma si si scrolla un secondo e ricomincia a correre. L'hai tipo rallentato. Lo deleto se lo trovo di nuovo. E Fire, in poche parole, la corsa continua. A un certo punto queste figure si trovano in modo di bloccare completamente la strada e entrare in un vicolo e li perde di vista. Non riesco a stare dietro. Sei arrivato tuttavia tu, che sei più esperto della città perché sei già stato qui più e più volte quando ancora lavoravi su quella nave mercantile, noti che bene o male la figura ti ha portato nella zona portuale, nel distretto del porto, come si chiama? Perché non mi preparo le mappe? Ah, scusate, arrivo. Prego, prego. Arrivo. Forse arrivo, non so se arrivo. Allora? Vabbè, sei arrivato al distretto portuale, ovvero la zona dei porti e la zona di porto dove vengono attraccate le navi non militari, ma quelle commerciali della città. I vicoli non ti sono del tutto familiari perché comunque non sei un abitante della città, ma in qualche modo riesci a ritrovare la strada principale e anche John, e vi ritrovate su una delle varie piazze che danno sui moli della città. Non sono riuscito a fermarlo. No, non fa niente, non ci sono riuscito nemmeno io, ma li troveremo. Tiro fuori un giavellotto, la prossima lo fermo in un altro modo. Ok, gli altri tre. Due, che vabbè, perché non c'è. Vedete che le guardie vi hanno portato in una strada più laterale della zona e stanno cercando di calmare, hanno calmato la popolazione che sta ancora un attimo in preda al panico. Calmi, calmi, qui non c'è nulla da vedere, nulla da vedere. Adesso si aspettano spiegazioni da parte di vostra. Gallifrey sta per iniziare a parlare. Non so. Gallifrey. Allora, possiamo chiarire tutto. C'è sempre la minaccia di jump. No, ti ho detto, andiamo da un'altra parte più in privato a parlarne magari. No. Qui, adesso. Altrimenti dovremmo dichiararvi in arresto. Questa è la guardia cittadina, la City Watch. Che si occupa, che sei appunto la polizia. Per cui mi toglie anche il bastone di merda. Vai, io mi farei arrestare. Questa è la City Watch, la guardia, proprio la polizia della città. Sì, diciamo che l'anello non gli fa tanto effetto, vabbè. No. È proprio per l'anello che vi hanno portato qua e aspettano spiegazioni invece di avervi già ammanettato. Dove ci hanno portato? Non ho capito. Siete in una, vi hanno tipo tolto da in mezzo alla strada, in una delle strade. Ah, ok, no, vabbè, a posto allora. Sì, dico, niente, stavamo cercando di inseguire dei sospetti e siccome c'era tanta folla ho avuto un attimo di infarto, diciamo, cerebrale e ho pensato che fosse una buona idea trasformarmi in un ragno perché... Però vabbè, sei un druido, cazzo, sei giustificato. Non mi aspettavo che fosse uno shock... Per tante persone vedere un ragno, perché per me è una cosa naturale, cioè io lo vedo continuamente ragni, però effettivamente siamo in una città come Waterdeep, che magari non è che tutti i giorni vedono un ragno gigante. Avrei dovuto scegliere un tiro di persuasione. Sì, però dai, a vantaggio, sembra troppo facile. È la verità. Non vedo ragni giganti, cazzo. Non vedi, ce n'è uno anche lì. Allora, con vantaggio 20 naturale, senza vantaggio ho fatto 9. Senza vantaggio 9, con vantaggio 20 naturale. Dai, ma sembra un fatto, uno fattissimo. Sono molto... Sono blu, outsider di così, sono uno blu. Vedi che non... che non sono proprio del tutto convinti, ma sono disposti a chiudere un occhio per stavolta. Voglio dire, questa è una città di avventurieri. Dicono che appunto questa è una città di avventurieri e se ne vedono tante in giro. Non si è ferito nessuno, nessuno si è fatto male, quindi per stavolta sono disposti a chiudere un occhio. Tranne il tizio che ha investito. Tranne il tizio con cui si è schiantato Salla, vabbè. Ma domanda, adesso parlando appunto di questo caso che stiamo seguendo, voi sareste disposti ad aiutare l'alleanza dei Lord o non posso chiedervi nessun... Di cosa stai parlando? Niente. Allora, diciamo... questo lo sai, questa è la City Watch, non, è, okay. Non fa proprio... È la polizia di Waterdeep. Sono tipo i carabinieri della città, cioè si occupano di dispute tra cittadini, se c'è un po' di... fermano le risse tra la folla, cioè si occupano di massimo furti, cose del genere. Sì, tipo da fermate, tipo chiudete questa piazza, fate rastrellamenti, ditemi un po' di informazioni, cioè più roba da risse, da base. No, quella è più una cosa da... Fatto è più una cosa da esercito quelle per le cose in grande, questi qua okay, si okay. Occupano delle no, vabbè, allora di comune cittadino okay, allora li ringrazio evitano tipo magari che i commercianti vengano picchiati da perché uno si rifiuta di pagare gigante. Però sì, non è che abbiano tutte queste responsabilità di grande. Vabbè allora grazie, scusate, non mi trasformerò più in un ragno gigante in mezzo alla folla. Sì. Ti teniamo d'occhio. Giri e fai tipo ma un babuino, una Bertuccia. quello secondo me avrebbe stato più divertimento che panico. Infatti, vabbè. Prossima volta un cane, un gatto. Gigante. Quello probabilmente... Gatto gigante. Ecco, quello per il futuro magari le persone intorno a te si sarebbero un attimo sorprese di veder comparire un gatto da nulla, ma non penso. Però quelli più avanti non se ne sarebbero neanche accorti. Esatto. Ok. A questo punto vi siete un po' severati. No, ma voi... indietro, no, io no. Ditemi voi. Cercate di tornare indietro. Cioè, abbiamo delle tracce o qualcosa che portano da qualche parte o li abbiamo persi in modo... No, se a un certo punto sembrano essere scomparsi nei vicoli della città. Sai quella classica scena da film che l'eroe svolta e il nemico non si vede più da nessuna parte. Vabbè, torneranno, la trama lo vuole. Ciao. Ma di cosa stai parlando? Johnny ogni tanto vede con vede il futuro di Foltus. Esatto. Facilmente potete ritornare sui vostri passi. Passando dalla strada principale stavolta, però, dove il chiasso e l'agitazione sembra essersi calmata a questo punto, e vedete che più o meno con i tempi ci siamo, perché le guardie hanno cercato di fermare il ragno, voi avete cercato di inseguire quelli là, e tornate più o meno dopo che le guardie hanno da poco abbandonato Gino e i vostri e gli altri compagni, più o meno nella stessa zona. Riuscite a rincontrare. Mi scuso e dico, vabbè, guardiamo il lato positivo. Ora so cosa posso fare per creare un diversivo la prossima volta. Fire, tu rimani un attimo sconvolto da tutta la cosa, perché comunque... Sì, perché abbiamo seguito quello, però, che non ho capito. Infatti, perché stiamo seguendo quel tizio? Vabbè, spiego a loro che ero abbastanza convinto che fosse mio fratello, che non vedo da anni, bb. Non è che se uno è cornuto è tuo fratello, capito? Dai, ma beh, chi non muore possiamo chiedere a Maria De Filippi che mandi una posta, una lettera, dice posta per te. Maria De Filippi, grande incantatrice, esperta di... Tipo, oh mio fratello, non lo vedo da 50 anni. No, ma non ho mai capito, Paire, quanto ti eri aperto con i tuoi compagni, se tu gli avevi raccontato la storia del naufragio e cose così, o... No, non credo. Loro imparano, quello che vuoi che tu lo... farlo. Vabbè, è suo fratello, basta. E vabbè... No, cioè, se non vuoi dirgli nient'altro della storia... Non c'è problema. Finché tu non sei tu a dire loro qualcosa del naufragio, loro non sanno niente. Infatti, io ti dico che lo ribecchiamo la prossima volta, lo vedi a Natale, che cazzo vuoi? Beh, no, non è proprio così, ma va bene. Indagheremo. Come indagheremo? È tuo fratello, zi tuoi, manda una lettera a tua madre di ho visto tuo figlio. Ma tua madre è morta! Vabbè, sentite, io andrei a riposare che domattina mi aspetto un'armatura nuova e non voglio farla aspettare. Giusto. Ora, non so se vi ricordate perché siete qui a Waterdeep. Vi ricordate perché siete qui a Waterdeep? Per due motivi. Uno che era di strada e l'altro era per andare a trovare il capitano delle guardie. No, delle guardie, vabbè. No, ripetimi il primo che non ti ho sentito. Così. Allora, il primo era che era di strada per andare a indagare gli stizi, cioè sta cosa... No, cos'era, un'isola? Dove dovevo andare? Sì. Le tracce che avevano trovato i membri della Lords Alliance si fermavano alle Purple Rock, ovvero un piccolo arcipelago di isole, esatto. Abbastanza a largo. L'idea era che arrivaste a Waterdeep per trovare un passaggio in nave che vi portasse magari, se non proprio alle Purple Rock. Sì, ma non era l'unico motivo per cui eravamo a Waterdeep. No. Dovevamo andare a trovare anche il come si chiama? Una quest secondaria. Sì, diciamo giusto passare la caserma del tizio. Ah, sì, no, lui non... Allora, da quanto ne sapete voi, lui è ancora rimasto alla miniera. No, beh, non lui, giusto per passare alla caserma dovevamo dire che... Sì, no, lui nel senso, vi ha detto, quando volete passate, cioè, passate pure, venite a salutare, così, anche a parlare di cose. Ah, come lui intendeva adesso, cioè, solo, solo per dire così. Allora, quando volete, no, Quando volete, se volete andare anche adesso, potete farlo, però lui è ancora alla miniera, probabilmente. Spero che non ci sta. Fate le vostre cagate e potremmo andare a riposarci. Cioè, volevo dire. Sì, dai, riposiamoci così poi c'è. Allora, riposatevi, ve lo dico, è tipo le 2 di pomeriggio. Sono le 2. Vado alla taverna, mi faccio una birra, mi mangio una bistecca. Avete già una taverna? Non so perché. No, però scusami, l'Alleanza in Lord ci ha promesso qualcosa. Via assistenza in generale, no, nessun posto del genere. Pezzenti. Infatti, Pyro, tu che sei della, non sei della zona, ma sei stato già in città più e più volte durante i tuoi viaggi, sai che di solito il luogo migliore per cercare una nave, un passaggio, cose così, è ovviamente il non in, perché non mi viene la parola stasera? Porto? Quella che ho detto prima. Il quartiere portuale, com'è che distretto volevo dire? Distretto portuale. Distretto, grazie. Il distretto porto. Portuale. Lo so. E non solo tu, e non solo, lì conosci anche alcuni posti dove poterti riposare a dormire, dove spesso la vostra ciurma passava una notte fuori dalla nave per bere, rilassarvi, cose così. Ok, allora visto che lo so, consiglio loro di andare tutti insieme a riposarci, a bere bibita da sto posto, birra buona, carne buona, prezzo buono, tutto buono, andiamo dai. Allora, la vostra ciurma tipicamente bazzicava in una locanda particolare, quindi vi dirigete tutti insieme al distretto portuale. Sì, dai. Non so, volete già provare a chiedere... No, io vorrei dire a Gallifrey se per favore mi va a comprare delle cose. Come? Eh? Ok. Sì, però visto che vedo che intanto sei abbastanza stanco, ti andrebbe di lasciarmi le tue cose, intanto le porto in taverna? Cioè... No! Ma che stai dicendo? Vabbè. Tira per raggirare. Ma una cosa... È posso... vero, è un PNG, cioè, PNG adesso. Non te... posso... No, Giave non ti lascerebbe mai il bastone. Però è un PNG di merda, quindi posso usare le abilità. Raggirare. No, cosa vuol dire? No, io sto giocando come giocatore. Giuseppe non ti lascerebbe mai le cose. Il suo personaggio. La zona dove Edoardo hanno lasciato i due tizi, quella piazza, quella zona, non so. Era vicino al porto o è da tutt'altra parte? No, era nel distretto portuale. Ok. Posso cominciare a parlare con i gabbiani in giro? Fare spiquitani molto a caso. Arrivate nella zona del porto, venite accolti da l'odore di pesce, l'odore di salsedine e dallo non è guaire dei gabbiani, dal verso dei gabbiani in cielo che gira intorno ai pescherecci che ritornano in porto. E vedi che ci sono molti gabbiani sulla banchisa, puoi anche approcciarti a loro. Se vuoi, in maniera sensuale e avvenente. Niente, comincio a chiedere un po' a tutti i gabbiani che vedo se stavano sorvolando quella piazza. Ne vedi la scena di tu che ti giri e fai... Non solo voi, vedi che i marinai intenti a scaricare casse dalle navi, a riparare le reti, si fermano a un certo punto allibiti nel vedere questo essere blu che si china a gracchiare ai gabbiani mentre... E questi in qualche modo sembrano rispondere. Vedi proprio che a un certo punto come tutti intorno si fermano e stanno un attimo lì a guardare. Cazzo, le nuove zone sono regolare qua, si fa l'opera di Foltus, tranquilli. Questa è la puntata in cui il giro si è drogato tantissimo. Sì. Ok, quindi lanci Speak with Animals e trovi i gabbiani. Cosa gli chiedi? Allora chiedo un po' a tutti i gabbiani che vedo se qualcuno stava sorvolando la zona dove Edoardo e Sal hanno perso i due tizi poco prima e se qualcuno di questi che li stava sorvolando ha visto due figure incappucciate incamminarsi verso qualche direzione. Ma giusto, cioè così in generale, non tipo in che casa sono entrati, cioè giusto per capire. Chiedi se hanno visto altri cazzi di Minotauri, non sarà così comune. Beh sì, ti dico anche che quello alto era molto alto, cioè era... No, vedete che alla fine, soprattutto la zona del porto, è un misto di... È un misto di razze di vario genere. Ci sono anche, spesso, anche minotauri, ben più di uno. Ci sono minotauri, vedete Goliath, vedete nani, vedete elfi, vedete... Razze di tutto il Faerun riunite in questa città portuale, intente a fare scambi e a lavorare su varie barche. Un po' ti a scaricare. Sì, tu gli chiedi, hai visto un minotauro e ti fa. Esatto. No, gli dico due figure incappucciate di nero, una bassa e una un minotauro, poco fa, eccetera, eccetera. Qualcuno mi sa dire una direzione o. Lui ti risponde, no, cibo. Gli tiro un pesce, prendo tipo un pesce dall'acqua. Sì, dall'acqua. Congelo un blocco d'acqua dove dentro c'è un pesce. lo alzo. In un porto, non ci sono troppi pesci in un porto. Lo posso fare? Ci sono i pesci in un porto, ma non in quelli industriali, non mi sembra. Ci sono. Industriali in che senso? Sì, è un porto di enormi dimensioni, ci sono... Ambientazione barche medievale che parte. Sarà un pesce. Il problema è che lui non lo vede neanche sott'acqua. Posso provare a immaginare che siano. Puoi immaginare che ci siano dei pesci, magari non sai se effettivamente. Si tuffi proprio. Ah, mi devo tuffare? Va bene, mi tuffo. Che schifo in quella. Posso diventare acqua? Cioè, qua si fa. No, dai, questo è bellissimo. E di nuovo i marinai si fermano con le casse in mano a bocca aperta, dove vedono un tizio che si getta in mare con armatura e tutto quanto. No, non c'ho l'armatura. Anzi, come, neanche quella vecchia hai? No? Vabbè. Con armi e tutto quanto, si getta in mare, così. Riesce effettivamente a catturare un pesce e a riportarlo in superficie dalle gabbiane. E una ventina di gabbiani ci si saltano sopra in una massa di ali e piume. E adesso? E adesso devi tagliare con l'erba, devi smettere. E adesso tutti quanti adesso non solo quel gabbiano a cui ti eri rivolto, ma tipo una 25-30 gabbiani ti vedono intorno: cibo, cibo, cibo. Quelli che hanno già mangiato, che mi potete dire? Gli do un altro cibo. Gli chiedi se mi rispondete ve ne porto altro. Vedi, l'idea è buona, solo che gli animali sono stupidi. Soprattutto i gabbiani non sono. Di nuovo, se hanno visto le figure, no? Ti rispondo tu, no, non abbiamo visto niente, non abbiamo visto niente. Cibo, grazie. Cibo. Vabbè. Grazie, ciao. No. Addio. Puoi anche immaginare a questo punto che l'attenzione dei gabbiani non sia proprio rivolta alle figure che bazzicano nei vicoli della città, quanto più magari ai pesci morti per strada che cadono dalle casse dei pescatori. Ho provato, magari no, tentarlo no, l'utilizzo del dono che è importante. Fidati, prima o poi parlare con gli animali tornerà utile. Tantissimo. Continua così. Devi anche sapere chiedere. Sono tutti così gli animali. Puoi pretendere non puoi pretendere che i gabbiani in un porto ti sappiano indicare l'ubicazione segreta. Ma Speak with Animals funziona anche con le bestie, tipo, non so, un golem. Deve essere una bestia per far usare Speak with Animals. Ok. Un lupo mannaro. No, deve essere un animale, non deve essere un, beh, un lupo. Ancestrale o... Beh, un lupo sì. Mannaro. Ma sai che i lupi mannari credo siano aberrazioni nella... Credo. Ok, i marinai sono di nuovo incuriositi e divertiti da tutta la scena. Beh, io me ne vado. Vedi che un po' ti scantonano anche. E non te la prendere, anch'io ogni tanto parlo con i gabbiani, ma non rispondo neanche a me. La cassa che sta tenendo in mano diventa un albero. Comincia tipo a spuntare tutti quanti a rami, eccetera. Minchia, oggi è la giornata del profilo basso, comunque. Giornata del... No. Aspetta. Vedi che spunta qualche ramoscello, qualche fogliolina, però non riesce a tenerla in mano, rimane un attimo sorpreso, ma non la fa cadere, perché comunque c'è il pesce di una settimana di pesca, non può. Vabbè, e quando Pyre si riprende andiamo alla locanda. Pyre sta guardando il mare in questo momento, immerso nel... Normale, sta compagnia. Che ha impagliato il gufo durante la notte, uno che parla con gli animali, questo qua che guarda il mare. C'è Galife che sta contrattando su uno sgombro che vuole... È arrivato quell'altro. Cazzo, lo sgombro? Oh, buono, sta facendo una cosa utile. Chilo di sgombri, due monete d'oro, due monete d'argento. Lui è lì che sta dicendo: il casto friend, you casto friend, friend, friend. Andiamo a aspettare un attimo Edo che ritorni. O... Dov'è rispetto a qui la sede di Acquisitions Incorporated? Voglio andare a fare un saluto. No, mi spiace, non credo che nella mia ambientazione non c'è. Quindi... Che bastardo che sei, Master. Lo so. Non potevi fare un attimo lo sforzo di mettercelo? Probabilmente sono fuori in questo momento, saranno già andati da qualche parte. Potrei salutare Jeff. Oh, non so chi altro c'è adesso che fa il segretario lì. Ok. Che dire, Pyre inizia a condurvi verso la locanda che conosce, intanto passate dai porti, vedete Gallifrey che ogni tanto si ferma a contrattare per del pesce, okay, non sapete per quale. A noi serve una nave, un passaggio in nave. L'idea è quella. E per cui ci deve essere una nave che va in quella direzione. L'idea è quella. E c'è gente che va in quella direzione o no? Che sappiamo. Allora, potete chiedendo in giro ai vari ai vari proprio come conoscenza generale, cioè da quella parte c'è qualcosa di interessante. Ah, ok. Allora, le Purple Rock non sono proprio una meta turistica o comunque di scambi commerciali, perché sono abbastanza fuori dal mondo. Però sì, ci sono navi che portano, che si muovono verso l'arcipelago di Corin e le isole delle ossa di balene, si chiamano, the whale bones, che sono più o meno diciamo di strada. Sapete che quindi andare in quella direzione, poi è già un tangia, qualcosa da lì, dovreste poi pensare a qualche altro modo per raggiungere le palpate. Va bene. Quindi di fatto ci serve solo un passaggio, no? L'idea è quella. Se vi interessa, sul Dropbox ho messo una mappa del mondo, se volete darci un'occhiata. Ce l'ha provata anche fatta a suo tempo, ma non ha funzionato molto. Cosa? Mandarmi la mappa e farmi vedere la mappa. Io l'ho messa nel caso, sono curioso. Si chiama quella della Sword Coast. Niente, va bene, andiamo verso la locanda che ci indica. Io volevo aspettare, speravo di aspettare un attimo, andato a parlare con i suoi. Sì. Volete fare qualche altra scenetta di conoscenza con i marinai del porto? Vedete che il porto è molto pieno di vita, ci sono svariate navi attraccate a vari pontini, gente che scarica casse, gente che carica casse. Conosco qualcuno che ci può portare alle Purple Rocks. Di che nessuna nave, come ho detto, si dirige alle Purple Rocks, ma c'è effettivamente qualcuno che è disposto a dare un passaggio fino all'arcipelago di Corin, per esempio, o un'altra di quelle. Sì, il primo che approcciate, che sembra essere disponibile a prendere passeggeri, si chiama Davon, un uomo di mezza età circa, con un po' di barba, leggermente stempiato, e che sembra essere il capitano di una nave mercantile diretta appunto a una delle isole di Corin. E via, sì, possiamo metterci d'accordo. Un passaggio possiamo dare, mi manca giusto qualche uomino. Qualche uomo. Se siete... Noi siamo quattro passeggeri e uno schiavo. Tanto Jaff non ascolterà mai il podcast, quindi posso dire qualsiasi cosa. Sì, se siete disposti a dare una mano sulla nave, non c'è nessun problema. Sì, noi... penso di sì, tutti noi possiamo dare una mano, poi c'è anche una persona che invece ha detto che si sforzerà doppiamente per farlo. È la, lo vede là dietro che prende il pesce per i vostri uomini. Intanto c'è Gallipe che ha una cassa di pesce in mano, ci sono vari tipi di pesce. Io me lo immagino che arriva con la cassa. Stavate parlando di me. Chiedo al tizio, quali sono i problemi che di solito avete di più su questa tratta? Tipo, non so, scorbuto, tempeste, non lo so, cioè... No, il viaggio verso le isole dura circa una settimana, quindi non è nulla di troppo estremo. Okay. E anche comunque la zona tra almeno la Sword Coast e l'isola di Corin non è troppo soggetta a tempeste e roba del genere. So che non sembra, ma il dio Foltus a me e al mio compagno Blue ci hanno dato il dono della guarigione, quindi potremmo aiutarvi a guarire malattie o infezioni o... Ah, quindi siete incantatori? No, non incantatori, è un dono divino. Noi in senso, sai che si usa più questa come una cosa generica di chi è in grado di usare magia. Sì, ma noi non siamo miracoli. In grado di usare magie. Noi intercediamo. È il Dio che ci usa le magie. Dio, esatto, è il Dio che usa le magie e noi siamo solo il tramite. E quindi noi due faremmo solo questo, mentre i nostri amici sono ottimi lavoratori. Raga, non c'è, sembri abbastanza convincerlo riguardo al fatto. Vi scambiate un po' di informazioni, dici che probabilmente ci sarà, dovresti aiutare magari a tenere pulito il ponte più un po'. Guardi, per queste cose deve parlare col signore là che regge la cassa. Io parlo solo di... Cioè, adesso Gallifrey ti hai messo a illustrare i vari tipi di pesci a Barbagianni in questo esatto. momento. Poi per lavori pesanti abbiamo anche un minotauro e un ladro. Mentre, sì, io e... Non lo presenterei mai come ladro, sinceramente. Vabbè, io, scusa, io e... Un meglio esperto tiefling, di serra... mezzo demone, mezzo umano, giusto? Sì. Ah, io posso fare un'altra cosa oltre a curare, in realtà. Potrei spostare l'acqua... E vedi già che si sbottono i pantaloni. No, questa era battuta mia. Non sono di quella sponda. Devo arrivarci all'altra sponda. Ah, fatto di mannare. Non prendiamo Genesi su questa nave. No, pensavo di spostare l'acqua davanti alla chiglia per far andare la nave un po' più veloce. Che cazzo è? Piccolo riassunto per... Sì, scusatemi l'assenza. Per Pyre. Niente, mi siete messi... Vuole dei soldi, che non ho capito. Pensi che probabilmente vi farà sgobbare più duro se non lo pagate per niente. Beh, perfetto. È disposto. Sono tre persone. Beh, un po' lo possiamo fare. Dicevo, Pyre, ti sei perso una piccola scenetta del druido che cercava di comunicare con dei gabbiani sulla banchina per avere notizie riguardo alle figure in nero, ma senza troppo successo. Okay. E avete iniziato a girovagare per il porto in cerca di una nave, appunto, che potesse portarvi in direzione delle Battle Rock. In realtà io sarei voluto andare in locanda, ma tu sei messo a fissare il mare e quindi... Sì, tu hai avuto un attimo di ricordi, stai guardando il mare, le collection in tranquillity proprio. Esatto. Sembra il rumore delle onde questo. E invece è un microfono rotto. Invece è un microfono rotto. Come è rotto? No. Era solo un rumore di fondo. Funziona. Chi è avanti? Pronto? Niente, vi mettete d'accordo, fate vedere che Jump è in grado di sollevare casse anche di un certo peso, che può... Ah, che può lavorare, che per, schiavo, e può lavorare per 16 ore al giorno senza problemi. Esatto. E mi fa sapere che la nave partirà, previsto che la partenza è prevista per domani più o meno a quest'ora, quindi avete un'intera giornata per finire i vostri preparativi prima della partenza. Proprio con l'abbonato. Conosco un minotauro alto più o meno così, e intanto c'è lui di fianco e faccio alto come lui. La faccia lì. Vedi che un altro membro della sua ciurma è un minotauro. Vabbè, questo però è un po' razzista nei suoi confronti. Io ho detto che almeno quella faccia lì adesso. Non è che tutti i minotauri sono uguali. Okay. Sì, non volevo dirlo, però anche prima le guardie non è che mi hanno dato benissimo. Secondo me hanno pregiudizi contro per le persone blu, sì, le persone di colore. Ah, deve essere quello, no? Forse avevano pregiudizi contro le persone che si trasformano in ragazzi. Che governa sto coso. Minotauri a casa loro, ci rubano il lavoro, cornuti. Beccati. Ok, ridendo e scherzando, si è fatto più o meno, fatto già mezzogiorno inoltrato. Avete girovagato un po' tra le banchine, avete parlato con vari capitani, avete visto che C'erano anche altre barche più o meno che andavano in quella direzione, gli altri però volevano soldi, non so, a meno che non vogliate avere passaggio gratuito. Guarda, ma se si può schiavizzare Jump, direi che è sempre meglio. Se loro promettono di farlo lavorare di più, io sono interessato. No, loro accettavano tipo passeggeri in cambio di un compenso in monete, perché sembra che questa nave vi avesse accettati come uomini perché appunto era sottodimensionata per il viaggio. Okay. Mancano giusto volete... per gli uomini. E se volevate pagare per avere un viaggio più confortevole, sareste riusciti comunque a trovare anche queste opzioni. No, ok. Tanto mica lavoro io, lavoro anche gli altri. Cioè... Ok. Detto questo, il sole inizia ad abbassarsi all'orizzonte e inizia a calare la sera. Paere, tu pensavi di portarli in un posto che conoscevi, che mi dicevo, in cui ti sei fermato più e più volte con la tua ciurma quando ancora è tempio. E ti metti a fissare il mare di nuovo, ripensando. Altri 10 minuti. Stavolta gli la brezza che muove la criniera. Coppino dopo 20 secondi a lui. dimmi. No, niente rimembranze. Che rimembranze? Sobbenze incrociate. Va bene, allora andiamo a bere e mangiare, ma. Ok. Analisi. Piano. Analisi. Niente. Ha detto niente rimembranze, ho detto analisi. Ok. La battuta di Westwood. Ma... Ah, ok. Purtroppo non l'ho visto. Ha capito solo Jacopo, forse. Allora, scusate, giornata pesante. Vi dirigete nella zona di divertimenti del quartiere portuale. Cosa? Sì. C'è un lupanare. Eh? Non seguo, non conosco questo gergo da giovani, mi spiace. Come si chiama? Una casa con facili donzelle, diciamo. Ah, sì, più di una. Ah, ok. Voglio dire, è la zona dei marinai, uomini che stanno settimane e settimane in mare senza vedere... Ah, tu le conosci, guardi il mare, tipo... Okay, siamo a Waterdeep, ma Waterdeep non è che sia migliori delle altre. Cioè. Ci sono a Milano, ci sono anche a Waterdeep. Giustamente. Giusto. Marco è molto esperto di queste zone a Milano. Se posso citare Jump, la vagina è ovunque. Cazzo, ah, Jump, che tristezza non averlo qui stasera. Esatto. Per darci queste perle di Chaldea. Comunque per un attimo ho temuto dicessi si chiama Waterdeep ma non è sul mare. È una battuta che gira molto nella zona portuale, i marinai ci ridono spesso. E sorpassate varie pub, locande, zone di case di divertimenti, per così dire, e li porti in una... Le sale giochi, le bottanate. Le sale giochi. E li porti in uno degli edifici quasi più grandi che ci sono, con un'insegna sopra la porta. Dove c'è scritto Darvn, D-A-R-V-N, e poi con apostrofo S per genitivo sassone, quindi sarebbe da Darvn. Ok, perfetto. E già avvicinandosi si sente sente uscire dalla locanda, risate, musica, suoni di discussioni e di gente che parla e ride insieme. Nonché l'odore ovviamente di alcol e roba da mangiare. Bene, allora direi che io riconosco tipo che ne so il beer master. Voi entrate e a darvi il benvenuto c'è un nano quasi più largo che alto. Mi piace. Già mi sei simpatico. Benvenuti. Se... Corpo di mille balene, proprio per fare la citazione più marinaresca possibile. No, incredibile. Pyre, sei proprio tu. E vedi sì, che... sono io. E vedi che da dietro il bancone, il nano che parlava a circa d'altezza, altezza umana, altezza di gente normale, mi sembra scomparire un attimo dietro al bancone. Lo senti trottorellare dietro, aprire uno, sai, ed esce, e ti viene incontro per abbracciarti, salutarti, ti dà qualche pacca amichevole sui calcagni perché non ci arriva. Le... no, io lo prendo, lo alzo e lo stringo forte, lo abbraccio e gli do forti pacche sulla schiena. Questo, come avete potuto intuire, è Darn, il proprietario della locanda. Come dicevo, un nano più decisamente robusto, con una visibile pancia che lo accompagna, che ballonzola insieme a lui in giro per la locanda. Tuttavia, tu che lo prendi in braccio, questa è una cosa che sapevi, ma e che ti conferma ancora una volta che lo prendi in braccio, quando lo stringi vedi che lui ricambia il tuo abbraccio, stringendoti, entrambi stringendovi quasi a farvi male l'un l'altro. Sebbene abbastanza in carne questo nano, è comunque decisamente in grado di tirare i cazzotti. Okay, sembra essere decisamente allenato per queste cose. Benissimo. E niente, tu che conosci il posto vieni accolto da una visione familiare, vedi i vari tavoli pieni di gente intenta a bere e a mangiare, discussioni, vedete gente che gioca a braccio di ferro in un angolo, gente che gioca a carta in un altro. In fondo alla sala ci sono tipo dei menestrelli che cantano allegre canzoni da marinaio, che purtroppo non ho scaricato in questo momento, se no ci starebbe benissimo un bello shanty marinese. Cerca su YouTube Assassin's Creed 4 Backfair. Esatto, proprio quel. No, non è SDC, era Maiden the Song. Vabbè, niente. E ti trovi in questa atmosfera familiare che ti ricorda ancora una volta i tempi andati. Beh, di nuovo ti metti a una finestra un secondo a guardare il mare a ricordare. Okay. Però stavolta mi giro subito e faccio: ehi Darv, dammi la tua carne migliore, la tua birra migliore, stasera ti brinca. Aspetta, però dai, trovaci una stanza prima. Ma prima trovaci la migliore stanza. Molla l'armatura e... come sai, questa è una locanda frequentata da vari marinai che ne approfittano ogni tanto per passare una nottata fuori dalla nave e senza essere cullati, senza essere cullati dal mare una volta ogni tanto, e soprattutto per trovare magari un luogo privato dove portare un incontrato dove portarlo, insomma, per così dire, diciamo. quindi non ci sono proprio per buttare la locanda è famosa per le camere singole, diciamo, per cui il nano vi può trovare facilmente 5 camere singole ognuna. No, vabbè, la scena era tipo la camera migliore, sono tutti uguali. esatto. Ma la roba, no, il nostro amico non ha bisogno di stanza. No, in realtà guarda, c'è anche la suite residenziale, che è tipo, sai quelle, è tipo la camera con il letto a forma di cuore e, e decorazioni tipo parti in fondo al mare con i cavallucci marini morti e i pesci essiccati appesi alle pareti, molto, molto molto molto kitsch in questo caso. Esatto. No, dicevo, bastano 4 stanze, il nostro amico dormirà fuori nelle stalle. Non ci sono stalle, un porto. Ci sono ancora meglio. No, Galife dice: no, voglio la stanza anch'io, pago io per me. Anzi, no, pago io per tutti. Ok, allora è meglio. Voglio dire, Giampe va a cenare con gli altri e adesso deve pagare. Vabbè, che per queste qua sono appunto quasi camere a ore, però per una notte paga di più. per una notte tutto incluso, una moneta d'oro a testa e siete più a posto. No, facciamo che sono il cazzo al proprietario, paga 2 monete d'oro a testa. Non è che facciamo, sta per forza, lui appena apre la bocca e sta sul cazzo al proprietario. vedi che... voglio dire, non... sì, il nano non sta un po' sul cazzo. E niente, vi trovate ora nella locanda con... prova a fargli friend il nano. Che il nano gli arriva un cartone sui denti. Ok, ditemi che fate. Se... Io rimango in armatura, però smollo i giavellotti e... su, in stanza. No, ecco, Jump prende la suite presidenziale per se stesso. Costa tipo 5 monete d'oro solo per lui. È tutto, hai letto da solo, letto a forma di cuore. E... Ci sta. Hai detto 10 monete d'oro, giusto? Sarebbero 9 in tutto a questo punto. Facciamo 10 per arrotondare. Hai detto 15 monete d'oro, giusto? Sono 10 in tutto per arrotondare. Facciamo un conto pari, fai 20. Esatto, perché 10 dispari. 10 c'è l'uno, non l'hai visto tu. È vero. Allora, e vi ritrovate, potete portare la vostra roba nelle camere. Non sono di sicuro la suite presidenziale di Jump, ma c'è abbastanza spazio per dormire in camera. Ok. E così vi ritrovate in mezzo al fracasso e al frastuono della locanda. Ditemi se volete fare qualcosa. Boh, non lo so, se ci sono tipo tornei di braccio di ferro, io provo a farne uno. Ci sono ovviamente persone che, marinai, che scommettono le loro paghe su tornei di braccio di ferro e roba del genere. Io vorrei una bistecca. Gioca i dati. E vedi che il nano ti ride decisamente in faccia. Sicuro, signore, e ti porta un piatto di zuppa e un boccale di birra. Una bistecca e un bicchiere d'acqua. Vedi che un filetto di pesce arrosto e un bicchiere d'acqua. Vedi che ride di gusto, poi sul suo volto ci compare un po' una smorfia per dire non spingerti troppo avanti. Io mi avvicino a Darv e gli dico dai fallo per me, ti pagherò il doppio, però non farmi un cazzo. Tu lo sai, nel senso, cioè qua servono zuppa e birra, sì, e alcolici principalmente. Birra con un bicchiere d'acqua. No, seriamente il bicchiere d'acqua. Ok, vedi che ti cambia la birra con un boccale da birra, però pieno acqua, pieno di acqua. Benissimo, grazie. Ma l'acqua è quella di mare? Se l'acqua è quella di mare, vado su, prendo i giavellotti e do fuoco a tutto. No, è acqua potabile. Perché insomma, Foltus non è molto abituato. Non è legale, buono. Vedete che la cena è abbastanza semplice: è una zuppa di pesce con verdure, così riscalda e riempie la pancia. È più che sufficiente per i vari marinai che ci sono in questo locale. Bene. E sono tutti più concentrati sulla seconda parte fondamentale del pasto, gli alcolici, che da una parte ci sono le verdure, carne, carboidrati, cereali e alcolici, qua sono molto concentrati sugli alcolici, e tutti a bere, esatto, e molto concentrati a bere. Ditemi se avete interesse a fare qualcosa, se no vi mettete lì a mangiare. Boh, sì, io voglio solo sfidare con un braccio di ferro. Vedi che ci sono alcuni tavoli in fondo alla stanza dove un gruppo di persone si sfida a un braccio di ferro. E vedi che un umano abbastanza corpulento sembra detenere il titolo della serata, almeno come campione. Ok, allora mi avvicino a lui. E faccio, cioè gli chiedo, tu saresti il campione? Yeah. Bene, allora mentre avevo una birra in una mano e me la scolo tutta ad un fiato, mi siedo in una sedia vicino a lui, sbatto. Costituzione, sbieni. Esatto. Poi sbatto fortissimo il braccio. È la prima birra della sera, può tenerla bene. Esatto, sono minotauro, cazzo, sono fatto 3 metri. Cosa vuol dire? Magari hai il fegato, hai il fegato che non produce alcol deidrogenasi e... E di tutto rosso e svieni. E di che per entrare sono 5 monete d'argento, quindi mezza moneta d'oro. Ok, ne metto una d'oro e sbatto fortissimo il braccio sul tavolo. Il tuo ti dico, il tuo sfidante sono io. Fai mai. Non mi interessa. Okay. Sbam. Il tuo sfidante sono io. Ok, ok. Vedi che adesso la folla sembra molto eccitata perché una faccia nuova in giro che non si vedeva, che comunque conosce il proprietario, ma i marinai cambiano ogni volta che vieni di qua. Muoiono spesso. Esatto. No, semplicemente i viaggi non corrispondono. Fammi prendere un attimo, mi sta andando via la voce. Comunque se nessuno mi dà fastidio, io sto seduto, a meno che non ci siano furti, violenze o robe strane. In quel caso mi alzo e mazzuolo la gente. No, non c'è nulla di particolare. Vedi marinai che bevono, gente che mangia, gente che ride, vedi, vedi persone che ci provano con le cameriere. Qualcuno intanto allunga le mani, loro abituate... li sanno rimettere al loro posto. A un certo punto, tipo in fondo alla stanza, sembra senti qualcuno che grida da uno dei tavoli in cui si gioca a carte. Tu stai imbrogliando, senti un po' di agitazione, vedi che qualcuno inizia tipo ad alzare le sedie, ad alzarsi così, e sembra che tipo stia per montare una rissa. A quel punto non si capisce bene da dove spunta spunta il proprietario da Darn, che tipo prende per le orecchie i due contendenti e li smalmena un po' e poi li sbatte fuori dalla locanda per ristabilire un po' l'ordine. Giustizia è rispettata. Torna dietro al bancone e quella serata procede tranquilla. Su Pyre vedi che a un certo punto la folla inizia a agitarsi, di che si crea una piccola folla intorno al tavolo, interessati a vedere il Minotauro contro il piccolo Timmy, come lo chiamano. è un umano altro circa 2,10 m. Esatto. Sembra abbastanza un toro come muscolatore e lo chiamano il piccolo Timmy. Okay. E... ovviamente la banalità non è mai troppo. E... okay. Quindi funziona così. Adesso dobbiamo fare qualche tiro contrapposto di forza e vedere chi. Okay. Perché esiste il gioco del braccio di ferro AD&D. Bene. Partite e le vostre braccia sono incrociate in verticale sul tavolo. Tiro di forza. Non ci credo. Fumble. Vedi che il tavolo è abbastanza unto di birra e di residui di cibo e per un attimo non riesci a tenere bene la presa, la tua mano viene quasi spinta sul tavolo, ma riesci in qualche modo a tenere la forza, a tenere in gioco la partita. Altro tiro di forza. Forza pura o proficiency? No, è forza pura questa. Ok, 17. Vedi che il piccolo Timmy ha già un sorriso stampando in faccia. E riporti più o meno la situazione come era all'inizio. Okay. Tiro di forza. 15. Di nuovo la partita sembra volgere a tuo favore. Altro tiro di forza. Urlo, my name is Pyre Cornogrande e poi faccio 18. E la folla esclama e tutti attorno a te, vai, vai Minotauro, grande Pyre, e tutti gridano e parte la canzoncina pipiripi. Esatto. Questo meme è vecchio, una voce da dall'altra parte della sala. E c'è tipo il piccolo Timmy che dice, no, no, dai, piccolo Timmy. No, Timmy, andiamo, sarà per un'altra volta, non ti preoccupare. E offro una birra al piccolo Timmy. Vedi che si tira su di morale e torna. Gli dico, bravo ragazzo, sei un bel ragazzone, però io sono più forte. E già ci di... gli offro un'altra birra e ce la scogliamo insieme. Ok. Niente, hai vinto una moneta d'oro, perché avevi scommesso una moneta d'oro e hai vinto una moneta d'oro. Okay. E quattro birre quanto sono? Beh, più o meno con i pasti, la stanza, cose così. Toglietevi tutti quanti circa, sarebbe tipo una moneta e mezzo d'oro. Ma parlo tanto, paga già per la stanza. Oh. Sì, no, hai ragione, è vero. Quindi toglietevi più o meno tipo 5 monete d'argento tutti quanti, mettetevi uno 0.5 nelle monete d'oro e si posso. Ok. Niente, poi boh, ormai stanco e divertito tutta la serata, penso che andrò a dormire a riposare. Prima che, una volta finito lo spettacolino del braccio di ferro, prima che ognuno si ritiri nelle proprie stanze, mentre ancora state consumando la vostra cena, venite raggiunti al vostro tavolo, tu sei tornato insieme agli altri, venite raggiunti al vostro tavolo da una persona. Una persona che tu conosci, Paire. Mm-hmm. Precisamente è un'elfa, una delle poche donne che non servono ai tavoli dentro la locanda. E prende una sedia, la gira con lo schienale verso il tavolo e si accavalla sopra. Bene, bene, bene. Ecco una faccia che non si vedeva da un po', quindi. Come andiamo? Come andiamo, Paire? E la riconosci come la capitano Levi, una elfa dei boschi? No, era l'elfa. Sì, era l'elfa dei boschi. Avevo un dubbio su come si chiamavano gli elfi. Una wood elf sarebbe. Appunto capitano di una nave che conosceva il vostro capitano e la vostra ciurma ed erano in buoni rapporti, eccetera eccetera, una nave mercantile più o meno come la vostra, nonché una delle poche donne che tu abbia mai conosciuto che abbia intrapreso la vita di mare. Ok, allora faccio Leva, quanto tempo? Come mai sei da queste parti? Come... Comunque Wood Elf è elfa di legno, anche detta... Elfa dei boschi, perché Wood vuol dire boschi in inglese. Sì, sicuro. Famosa elfa di legno. E Geoff Empire insegna un'altra cosa. Figa di legno, elfa di legno, è figa di legno. Ecco. Non volevo dirlo io. RIP GDR, un programma per tutta la famiglia. Beh, dai, ormai questo non l'ho mai detto. Dalle 21 alle 21:05, poi va bene. Tanto è in podcast. Vabbè, tanto explicit mettiamo su avrei voluto urlarla un pochino meglio questa parte, ma sono talmente andato stasera che non so se ci riesco. Niente, ti racconta che si trova in porto tra un lavoro e l'altro, che probabilmente riparterà tra qualche giorno insieme alla ciurma, ed effettivamente adesso che guardi bene quelli nel locale, riesci a riconoscere qualcun altro della sua ciurma che hai già incontrato altre volte. Facce, non tutti quelli che c'erano prima, perché come ben sai le ciurme cambiano e si modificano rapidamente per una nave mercantile. Però vedi tipo qualche uomo e qualche altro, tipo un nano che conoscevi già un tempo con lui, che lavora per lei, eccetera, eccetera. E niente, vi scambiate così e sembra tipo, a un certo punto la vedi tipo evitare un po' il discorso, non sapere come introdurre un qualcosa, sembra essere titubante sul parlare di qualcosa. Mm-hmm. La vede tipo, a un certo punto trova il coraggio, quindi cosa è successo veramente alla vostra nave? Le chiedo, tu cosa sai? Non molto, purtroppo. Non sono giunte molte notizie del vostro ultimo viaggio. Sapevamo che eravate diretti. con i nomi, non mi ricordo. Eravate diretti a Ruathen, un'altra, anche lì una zona più o meno nell'intorno della cipria di Korn. Tuttavia non è mai giunta notizia del vostro arrivo e non sapevamo cosa pensare. Ovviamente l'idea era che fosse stato tutti persi in mare, nessuno ha avuto più vostra notizia. Purtroppo le dinamiche del naufragio non sono state chiare nemmeno a noi, sappiamo solamente che non è un naufragio comune, insomma, cioè non è un... Le cause non sono esclusivamente naturali, insomma. Mm. Ma non ne sappiamo molto più. La vedi che si fa pensierosa al riguardo. Sai, per caso non è che è successo qualcosa a navi recentemente o comunque che se ne sappia? No, purtroppo non ho avuto notizie di questo genere. E quindi, oltre a te, chi si è salvato dalla fuga? Sono l'unico sopravvissuto. E vedi che sul suo volto cala un'ombra a queste parole. Quindi anche. Sì. Ma com'è possibile? Io. E vedi che anche. Che di nuovo l'incredulità si stampa sul suo volto. Mm-hmm. Eppure. Io credo di aver visto tuo fratello qualche giorno fa. Dove l'hai visto? Era qui, in un vicolo della città. Ho provato a chiamarlo, a farmi notare, ma sembrava che non mi avesse riconosciuto. Non... Bam, aspetta, fantasma, GG. Sembrava come... Allora ho pensato probabilmente di essermi sbagliato, che non fosse in realtà lui. Cioè, no, sembrava, mi hai incontrato anche noi oggi. Voglio dire, poi, non so, non l'avevo mai visto con addosso un mantello prima d'ora, eppure portavo un cappuccio e sembrava... Ha cambiato modo di vestirsi, cioè, nel senso, Waterdeep è importante. Purtroppo credo che si sia unito a delle persone poco raccomandabili, sempre. Sei già pronto a fare questa ipotesi? Come sì. Puoi dirlo con questa sicurezza? Come puoi dire una cosa simile? Perché lui non è vivo, lui è morto. Vicino a quella roba. Quello non è vero lui. Ma non parlare con nessuno. E dopo un po' la conversazione muore da sola. Vi salutate, vi scambiate un abbraccio affettuoso, un saluto. E... Ah, casomai ti servisse qualcosa? Ma l'ha visto nello stesso posto? Ha detto che l'ha visto qua, nella zona del porto. Le chiedo comunque se, cioè, in caso avvistasse degli altri tizi vestiti nello stesso modo, comunque lo stesso mio fratello, di cercare di... Non un altro fratello, modo. Sempre quello. Che stronzo. Ho perso un fratello, non avevo proprio cuore. Non capisco la sua battuta. Niente, hai parlato come se... Ma l'ha perso perché letteralmente non è proprio. Lui stesso. Così. Si vede lui stesso. E niente, vi saluta e augura a te e ai tuoi nuovi compagni buonanotte e si allontana per tornare dal suo equipaggio. Ovviamente per, anche a lei per passare una notte in questo caso. Va bene, grazie, le auguro buona fortuna. E così. Sì, scusate, stavo sentendo una cosa. E così finita la vostra cena, ormai tu un po' di pessimo umore dopo questa notizia. Sì. Intanto Gallifrey che lì tipo sta imparando i nomi dei vari pesci che ha comprato dentro la cassa, sta dicendo... E così vi dirigete a letto dopo aver cenato e bevuto. Oh, bravo, fammi recuperarmi con te. Sì, una bella dormita. Fate una bella dormita. No, okay. Tipo, ogni tanto qualcuno si sveglia sentendo cigolio di un materasso nella camera a fianco, magari, o risatine, cose così. Rumori che non, che non ci tengo a riprodurre in diretta dalle camere. Non capisco a cosa ti riferisci, potresti farmi un esempio? Vabbè, allora, vedi, quando un uomo ama una donna e ci sono dei cavoli, se non la ama, sono delle api, B-movie. E c'è un'immagine di John nella stanza di lui in bianco e nero che conosceva una donna un tempo, ma. Noir. Ok, vi svegliate il mattino dopo e al suonare di campane che chiamano alla donata gli uomini per ripartire, navi che salpano, gabbiani fuori dalla vostra finestra che vi danno il buongiorno e l'odore di pesce fresco che sale dai vicoli. Che bello, che buono. Molto fresco. Allora, appena mi sveglio, saluto tutti e vado a prendere la mia armatura. Io vado con lui. Che potete andare in svegliati. Gallifrey forse sta un po' in camera adesso. Non so. Sì, Gallifrey è meglio se rimani qua. Magari vado, mentre vado giù faccio, senti, il nostro amico ha detto che rimane qua e se hai bisogno di qualcosa per pulire ti dà una mano. No, vedi che si mette a conversare con Darn e cercando di farsi magari tipo spiegare qualche ricetta per cucinare il pesce che ha comprato, che ormai inizia già un pochino a puzzare però. Il prezzo tipo, della notte aumentò. Tipo quello di Final Fantasy che fa that's it e fanno new recipe. Esatto, schiocca le dita. E niente, chi ha... Non avevi anche tu un'armatura, Gino, pronta per essere ritirata? Sì, infatti vado con loro. È un'armatura leggera, tutta bella figa. E... Mm-hmm. Tornate alla maglia di ferro, il fabbro da cui avete ordinato le vostre armature, e potete ritirare il vostro ordine. Sono 250 per le due armature di splint, le due armature pesanti, in totale, 250 in totale. E 90 monete d'oro per l'armatura di pelle che è stata tinta di un colore blu acceso e vivace. Hai già tolto 10 che avevo lasciato da conto? O non l'avevo lasciato di racconto? Non mi ricordo. No, ti ho detto il prezzo totale. Non, togli di modo. Mi sembra che l'avesse lasciato loro l'acconto, sinceramente. Sì. Ok, allora niente, sono 90. Quindi... Tutti un attimino rimani perché comunque è un po' costosetta come armatura di cuoio lavorato, però vedi. Ma no, va bene. No, però il fabbro ti tiene a spiegare che il lavoro di tintura è stato molto impegnativo, soprattutto farlo per essere pronta stamattina è stato piuttosto impegnativo. Non gli ho chiesto apposta il prezzo perché immaginavo fosse alto, non è un problema. Più o meno è considerando che probabilmente ti ha fatto anche a te lo sconto per Alleanza dei Lord, è circa il doppio di un prezzo normale per un'armatura del genere. No, vabbè, ci sta, voglio anche sembrare potente. Voglio dire, lo stile non è una cosa da ignorare, no? Esatto, la moda è importante. E voi vi ritrovate con le vostre nuove luccicanti armature, e Gino in un'armatura di cuoio lavorato, blu, di un colore blu profondo. E... No, raga, dobbiamo uscire dal coso, dal tizio, dal posto dove c'è l'armatura, tipo Brooklyn Nine-Nine. Per rallenti. Però è ovviamente rallentatore, tipo tu. Esatto, è rallentatore. Si ferma. la miglior scena del mondo. Esatto, uscite tutti a rallenti, poi si scopre che nel negozio di pozioni lì a fianco era caduta una boccetta di manipolazione del tempo di pozioni, e c'era tutta la stella lenta. E avete ottenuto quello per cui. Tra l'altro siete nel distretto di nuovo degli avventurieri, così, quindi se vi serve ancora qualcosa ci sono anche... Sì, ci serve il fratello di Pyre, così poi possiamo andarci nella sua città. Del Quanto costa? No, ve lo dico perché anche abbiamo finito la volta scorsa un po' in fretta con gli acquisti. Sì, ma io non ho soldi perché qualcuno, tipo Jump, se li ha fottuti tutti. Mi siete divisi le 100 monete d'oro del... Sì, cioè, dato... si è diviso per se stesso le 500 del valore dei suoi oggetti. Comunque... Ah, no, vi ha dato ancora le monete d'oro dell'Alleanza di Davide. Attribuisce... No, ha detto che se le teneva. Come no? Cioè, non mi ricordo più, le vedete che se le teneva già le monete? Sì. Allora, quelli che c'ha il tizio vecchio dell'Alleanza dei Lord le ho divise, però già non le ho date perché non se le meritava, perché ci ha quasi fatto uccidere. Anzi, ci ha quasi ucciso lui direttamente. E si è inculato la borsa. E se la borsa va bene, vabbè, la borsa era del gruppo, ma va bene. Sì, no, la borsa è sua. No, lo... E per nessuno. Io ve l'ho data per il futuro, per quando ci sarà bisogno, va bene. Sì, e in futuro ci sarà magari anche bisogno di Jump, ma nel senso, non è che poi sono cose che uno non può mai sapere, capito? Va bene. È tipo un investimento a perdere, ad alto rischio. Va bene. Ditemi voi. No, niente, se vuoi perdiamo un po' di tempo per cercare tuo fratello, altrimenti possiamo andare in nave. Cominciamo a imbarcarci. Che facciamo? Non lo so. Guarda, hai questa rara occasione per cui non c'è Jump e puoi fare più o meno qualsiasi cosa. Esatto, sei libero. Beh, dai, magari qualche piccola investigazione si potrebbe fare. E quindi provate. Ok, fatemi un tiro di investigazione, appunto, per vedere come. Logia. Investigazione o insight, come che si dice? Logica. Allora, 15. Dado. 20. Non naturale. Dove sta? 15 meno 14. 17. Ok, chiedete in giro le varie persone qua nella zona commerciale se hanno visto, appunto, notato le figure che avete visto passare voi. Chiedendo alle persone in giro, nessuno ha notato nulla di particolare, voglio dire, due figure incappucciate non sono così strane nella città di Waterdeep. Qualche negoziante si ricorda che sono passati da lui queste due figure, una molto alta, effettivamente uno era un minotauro molto alto, l'altro sembrava essere un essere umano, incappucciate, così che sembrano corrispondere alla vostra descrizione per fare acquisti... Nulla di troppo preciso, che hanno acquistato materiale di necessità, corde, materiali per stare, borracce, cose del genere, materiali che tipo per chi si prepara ad affrontare un viaggio, qualcuno sembrano essere passati anche per qualche negozio di oggetti magici, eccetera, ma nulla di che catturi particolarmente la vostra attenzione. E più vi avvicinate però al porto, più effettivamente gli avvistamenti sembrano farsi più frequenti, tuttavia le persone sembrano a un certo punto essere più restie a come dire, darvi le informazioni che cercate. Qualcuno dice, forse li ho visti, forse no, non mi interessano di queste vicende. Andate avanti. E a un certo punto arrivate a pensare, soprattutto, che alcune persone sembrano quasi intimorite dalla presenza dalla vostra ricerca di queste due per queste due persone incappucciate, queste due figure. Ok. Non riuscite, potete confermare della loro presenza, ma non ricavate nessuna informazione utile sulla loro ubicazione attuale. Ok, chiedo, che ne so, magari a un commerciante di quelli che mi ha detto di averli visti effettivamente, se ha notato una specie di, diciamo, oscurità intorno a loro, oppure se erano delle persone che sembravano effettivamente normali. Cioè persone barra minotauri barra... Non saprei dire, sono arrivati... Il sole era già alto in cielo, non credo fosse buio, cosa... Non sa bene cosa vuoi intendere con oscurità, mi spiace. Vabbè, okay. Se non capisci cosa intendi, probabilmente cioè, non c'erano. Non avevano le ombre che gli aleggiavano dietro, se questo che stai chiedendo. Ok. No, okay. L'aura oscura di... Sì, boh, qualcosa intendevo qualcosa del genere. Tipo Dragon Ball. Sì, no. Ok. Ah boh, l'unica cosa che si può fare è tipo o appostarsi oppure... non ciao. Non è tanto tempo però. Effettivamente John ha ragione, perché nel cercare in giro si è più o meno fatta l'ora della partenza. Allora noi partiamo con sta nave qua e... pure... Vabbè, ci penseremo dopo, io mi affliggerò tantissimo durante il viaggio e ci penseremo dopo. Allora, chissà, frega. Per te è tantissimo mare. Vai, andiamo. Ok, raccattate le vostre robe, recuperate Gallifrey dal Khan, che adesso il pesce sta veramente iniziando a pozzare perché è tutto nella cassa tutto il tempo. E vi dirigete al... alla banchina dove è approdato, dove è agganciata la vostra nave. Ed effettivamente gli uomini sono indaffarantissimi, stanno caricando le ultime casse, tutti che spassano una cassa dall'altra. C'è il capitano, l'uomo che avete incontrato ieri, che sta una cartellina in mano, una di quelle comprate all'IKEA, sta controllando che il carico stia tutto in ordine, tutto giusto. E è intento a lavorare alla sua cosa, a completare i preparativi. Va bene, io da ex uomo di mare lo aiuto in caso che serva qualcosa. Ok, tu ti avvicini dopo. Cioè, siamo noi il medico di bordo, Salla. Ottimo, allora vado nella casa. Voi vi avvicinate alla nave, state già iniziando tutto a salire a portare sopra le vostre robe e quando il capitano grida: fermi, venite qui un attimo, per favore. Che è successo? Lo vedete piuttosto impacciato e nervoso a questo punto. Quindi mi dispiace dirvelo, ma il viaggio è annullato, non potete essere nostri passeggeri per il viaggio. Cosa? Avete capito bene, non abbiamo più bisogno di uomini, mi spiace, ma abbiamo rimediato la nostra cosa. Quanto è annullato? Non potete venire, mi dispiace, vedete che cerca di allontanarsi per tornare. Ferma un po' un attimo, che cazzo vuol dire, cosa è successo, perché non possiamo venire? E lo stai chiedendo? Sì, sì, cioè lo fermo proprio. Cioè lo fermo. Ho detto che non potete venire, non potete venire e basta. In modo molto scorbuto. No, no, non ci siamo. Estraggo il martello e mi piazzo davanti a lui. Non so, se poi qualcuno può provare a fare un tiro di insight per capire se... No, io proprio lo intimidisco. Ok, puoi fare un tiro di... 20 naturale. Ok, volevo fare abbiurarlo, ma vedi che lui si calma un attimo, è abbastanza intimorito dalla tua presenza. Senti, fai quello che vuoi, ma non potete venire nella mia nave, per favore. Ti chiedo, cioè gli chiedo direttamente, proprio diretto, sono stati due tizi incappucciati a chiedertelo? Appunto si fa nuovo il nermosino, sembra salire. Per favore, non chiedete altro, andate e basta. Non devi rispondere, devi solamente fare un cenno. Nessuno saprà che sei stato tu a dirmelo. Vedi che non ti fa proprio un cenno, però tipo sembra inclinare la testa in un modo strano, un modo non proprio naturale per chi legge da una cartelletta. Okay. E anche tu adesso riesci tipo a vedere che è un segno di un taglio, come un sottilissimo taglio sottile proprio al di sotto della barba. Uh-huh. Come se qualcuno gli avesse puntato un coltello alla gola e... C'è un invisibile! Non adesso, è un taglio... Ah! Era rimasto sopito per magari inclinato la testa, c'aveva un taglio. No, vedi che c'è tipo il segno di un taglio chiuso, cicatrizzato, recente. Niente però. Per un bel po', la stronzata si è accumulata. Quindi... No, fammi capire, però voi partite lo stesso oggi. Sì. Sicuro? Quindi... Arrivederci, siamo già in ritardo. Lo stesso oggi. Sì, cioè ti sta dicendo che partiranno loro. Sì, sì, no, io gli chiedo se lui però, dopo che ha parlato con noi, pensa di poter partire lo stesso. E di che sta un po' per... Sai, Foltus dice che le promesse vanno onorate. Foltus non abita questi porti, ragazzi. Sbagliato. Aspetta, posso? C'è tipo, che ne so, una specie di tasto sul martello per accenderlo e fare tipo l'elettricità, vai. Poi il tuo martello non è elettrico, richiama il potere del tuono, non del fulmine, giusto per essere precisi. Ok, va bene, quindi posso sbatterlo per terra e fare tipo richiamare il potere del tuono. Sì, effettivamente quando tipo lo sbatti contro una superficie il suono riecheggia molto, come se... Ok, allora... Crack di un tuono, un rombo di un tuono. Allora, cerco di sbatterlo, cioè lo sbatto per terra facendo casino, però cerco di stare attento, diciamo, nella zona circostante se vedo qualcuno che magari si sposta, fa movimenti un po' strani. Cioè non che fissa me, cioè che proprio qualcuno di sospetto. Fammi un tiro di percezione. Non ti sembra di vedere nessuno nella zona, cioè sono tutti i marinai si voltano a guardare che cos'è il fracasso, anche la gente che passa sul molo, però non nessuno in particolare, scusate, mi è scappato questo, nessuno in particolare sembra destare particolare, non ci sono figure incappucciate di nero, sai quello che stai cercando. Ok. Gli dico a voce, cioè con voce molto calma, però decisa, te lo chiedo per l'ultima volta. Chi ti ha fatto questo e chi ti ha detto di non farci partire? No, più che altro dove possiamo trovarlo. Esatto. Esatto, non mi dire chi, ma dimmi dove. Io non so di cosa state parlando, io non... Non ho visto niente, non c'è stato nessuno qui. Basta, sparite, non tornate più. Va bene, gli spacco un pezzo di nave. Do una martellata alla nave. Ok. Dai una martellata alla nave, fragorosa. Non devi fare il tiro per colpire, perché è una nave, riesce abbastanza a colpirla. Anzi no, fai un tiro per colpire, se non fai uno e cadi in acqua, la colpisci. 23. Sì, okay. La colpisci e fai tipo non buchi proprio completamente lo scafo, perché è una nave bella robusta, però le assi si incrinano abbastanza e... Però uso Thunder Wave. Se vuoi la smite anch'io. Ok, rettifica, il tuo colpo sulla nave è particolarmente poderoso e un'esplosione fa piantare il tuo martello dentro le assi della nave, lasciando un visibile buco un buco sulla chiglia Arrivano le guardie, le stupriamo e facciamo i caotici malvagi. Bene, ora ristacco il martello e lo guardo. E mentre stacca il martello io penso, pensa, poteva essere la tua testa. E di nuovo lui cerca tipo di tenere lo sguardo basso sulla cartelletta senza muoversi, tiene le braccia tese lungo i fianchi e la testa bassa. Per favore, andate. Cosa vuoi fare? Lo stai cercando di intimidire per portarti in giro? No, sembra che sia abbastanza determinato a non farti salire sulla sua nave. Però deve pagare. No, no, no, non è che voglio salire sulla sua nave, io voglio che mi dica chi e dove. Allora, chi e tu? O almeno o chi o dove. Mentre loro stanno parlando, io mi avvicino alle casse che stanno caricando. E vedi che delle spinte alla gente che la porta in mare. Questo è crudele, però. Non è crudele, lui aveva un patto che non ha onorato, quindi deve pagare. Patto che non ha onorato, non per sua volontà, però. Me ne batto il cazzo, cioè la giustizia è questa. Ah, ok, va bene. E poi, no, ma tu hai presente il background del mio personaggio? Io sono super violento. No, è vero, sta... però. No, okay. Il discorso è questo: o ci dice dove è stato fatto il torto, dove deve essere dispensato la giustizia, oppure giustamente se lo dice la giustizia va dispensata qui. Cioè, nel senso. No, ma il mio PG è tipo se gli scoppia la vena, è super incazzoso. Quindi... A un certo punto anche lui dall'esasperazione. Devo veramente essere così specifico? Non sento, e intanto sto spingendo un tizio. No, vabbè, lo dice sottovoce in modo da far sentire a Pyre, però lo dico a un'altra voce per il podcast. Il Zentarim. Zentarim, ok. Che nel caso vi fosse dimenticati erano quelli che hanno assalito la grotta. Sì. Ok. E a questo punto se ne va e... Ma c'è un posto dove stanno in città, no? Tipo mafia. È la mafia, sì, cioè nel senso hanno un po' il loro grinfie per tutta la città. No, è l'occasione per distruggere tutto, il mio PG è fatto apposta, finché non si fanno vivi, spaccare qualsiasi cosa a caso. È nato per questo. E a questo punto si torna... rivolge ai suoi uomini e gli dice di rimettersi al lavoro adesso e ritorna sulla nave cercando di ignorarvi il più possibile. Ripescate le casse che sono cadute. Marco, una domanda. Quanto è il danno in monete che ho fatto alla nave, più o meno? Una buona cinquantina di monete d'oro per ripararla ci vorranno. Perché... Gli lascio 50 monete d'oro. Ma scusa, lui non paga niente per quello che ha fatto. Come? Lui non paga quello che ha fatto. Il danno che ci ha fatto a noi. Me lo stai chiedendo in gioco, immagino? Sì. A me non interessa. Beh, diciamo che lui il danno che ci ha fatto è... È andato bene, intanto gli spinto sto spinto un mezzo. E dico, gli uomini sembrano adirarsi, però anche loro tipo non vogliono avere nulla a che fare con voi, sembrano evitarvi il più possibile. Anche perché se mi fa brutto io tiro fuori la spada e comincio a smaitare. Però immagino che non mi abbia detto dove, solo chi. No, cioè, non, neanche lui sa, come tu ben sai, perché sei stato qui più volte, non è raro che... Gli Zentarim sono una forza costante adesso anche a Waterdeep. Sono ormai i loro artigli hanno raggiunto anche questo. Avete visto Deadpool? Sì. E il mio PG farà uguale. Risaliamo la catena alimentare. E, sono ormai hanno raggiunto anche le loro grinfie, si sono estese anche a Waterdeep, fanno un po' le mani in pasta ovunque. Ci sono di sicuro nascondigli nella zona portuale, nascondigli negli altri distretti della città. Vedi che succede? a mettere Acquisitions Incorporated, che poi succedono queste cose, cioè arriva la mafia, fa come cazzo gli pare, non c'è nessuno. Senti, c'è un posto di guardia tipo sceriffo? Sì, ci sono tipo delle postazioni della guardia cittadina ogni tot di distanza. Io verso una, la più vicina che ho visto. Ho paura. Ne fai bene, cazzo. Prima che lui va, posso proporre una specie di piano? Non devi chiederlo a me, devi dirlo a lui. Io... Sì, sì, no, infatti dico, cioè, dico in generale. Ah, okay, sì. Proporrei tipo... uno di noi potrebbe tornare al, alla sala dei teletrasporti, tornare alla grotta e informare il capo della guarnigione di quello che è successo, di quello che succede a Waterdeep. Andiamo Gallifrey. Esattamente, era questo che volevo dire. Può informarlo della presenza di, degli Zentari? Cioè, voglio informargli che gli Zentarim stanno cercando di impedirci di andare lì. Ah, ok. Perché se volevi informargli dell'esistenza degli Zentarim, questo no, lo sapeva tranquillamente. No. Quello ovvio. Dico già che se mandi Gallifrey, quell'alleanza è persa. Cioè, possiamo... Ah, tra l'altro ci ho pensato solo tipo qualche giorno fa, è probabile che oltre... agli anelli che abbiamo dato per riconoscere, probabilmente abbiamo dato anche un documento ufficiale per far riconoscere magari il primo coglione che si presenta con l'anello, voglio dire, chi è sto qua? Dipende, probabilmente avete anche... a me è difficile che poi un coglione me lo prenda. Non è detto. Quindi per cui avete tipo anche lettera di presentazione. Cioè, però, io sogno un giorno tipo Gallifrey, c'è Jump che fa così e non c'è più l'anello. Tipo, guarda. Ah, non c'è più. Poi hanno fregato, li hanno sfilato. È per questo. Ok, e gli altri, scusa? Il piano dopo, cioè dopo questa cosa dobbiamo fare? Dopo questa... Jump lo fai giocare dove sono i tombini aperti e poi? Niente, poi magari aspettavamo, che so, okay. Magari indicazioni dalla guarnigione, che ne so. Vado verso il posto di guardia. Dico una cosa così, cioè, vado un po' a braccio. Non è che noi adesso arriviamo e riusciamo a sgominare una mafia ormai ben organizzata, diciamo. Forse è meglio cercare di partire lo stesso, tipo di nascosto... con la stessa nave o con un'altra nave, sì, senza che ce lo possano impedire, e magari dopo un'altra volta sgominare la mafia qui a Waterdeep. Io vado nella guarnigione come sto facendo, ammazzo lo sceriffo, cosa che sto facendo, divento io lo sceriffo. Però sono io lo sceriffo. Perché funziona proprio così la legge a Waterdeep, è una città di frontiera. In poi. Certo. Va bene, mi avvicino alla guarnigione. Intanto voi cercate una nave per... guarnigione, sono tipo delle postazioni, sono tipo dei piccoli edifici, ci sono tipo tre soldati stanziati lì vicino al porto. Sì, ce n'è uno vicino al porto. No, io ci sono tre soldati dentro intenti saltare dentro. Ognuno sta mettendo a posto, uno sta mettendo a posto i documenti fuori, ci aspettiamo nella nave quella lì, non fa nulla. Mi avvicino al tizio. Io rimango. Vai. Salve, lo vede questo scudo? Riconosce lo stemma? Dovrebbe dirmi qualcosa? Ok, e questo anello lo riconosce? Quello sembra avere già più... sì, certo. Ok, abbiamo... Come possiamo essere utili? Abbiamo stabilito il rapporto di gerarchico. Allora, senta, noi per l'alleanza dovremmo prendere una nave, solo che voi avete un piccolo problema di mafia in città, non so se ne siete al corrente, spero di sì, e che non ci vuol far partire. Lo risolvete voi o lo risolviamo noi? Oppure voi ci date una nave, o voi autorizzate una nave a farci trasportare, oppure voi non abbiamo queste autorizzazioni, le navi sono proprietà privata. Sì, no, ma appunto io pensavo con la forza, nel senso garantite protezione dalla mafia, che voi non... non bloccate, in cambio l'alleanza dei Lord sarà riconoscente. L'alternativa è che io ora vada in giro e faccia la giustizia default in giro per la città. Per me è uguale, la seconda mi renderebbe molto più felice, però... Vedi che è molto a disagio perché non ha idea di come rispondere a questa cosa per lui, perché lui è una comune guardia cittadina, loro non hanno l'autorità. Beh, allora che chiamino qualcuno che ce l'ha, scusa. Ok, possiamo fare un reclamo, ci vorrà qualche giorno, ma tiro verrà... fuori la spada e intanto la smite, cioè la spada prende fuoco. Cioè, posso fare io il reclamo? Vedi che a questo punto è intimidito, ma anche lui cerca di rispondere afferrando la lancia che ha di fianco e mettendosi in posizione di difesa. Come dire, è una guardia cittadina, non è che è il primo che passa. Sì, cioè, per me è comunque il primo che passa. Oh, ok, però... per te è il primo che passa, nel senso, sì, se ti dimostri ostile verso la guardia cittadina, lui non è che la prende bene. Però. Dicevo, solo questo, c'è qualcuno che può garantire a una nave sicurezza per scortarci? Non lo dico per me, lo dico per l'alleanza dei Lord. Sicurezza da parte degli Zentari? Sì, visto che è un problema vostro, speravo che voi lo poteste risolvere o arginare. Sì, è una cosa... Non... Vuol dire, sì, possiamo provare a garantire la sicurezza, ma non possiamo sapere come colpiranno gli Zentari, chi colpiranno gli Zentari. Non... Colpiranno la nave che noi prenderemo per andare via. La tua informazione... Qui è come mafia, cioè gli Zentari ti minacciano. Questo te lo sto dicendo io a te, fuori dal gioco. Sì, quello che dico guerra. Io fuori dal gioco è: se loro garantiscono protezione a un capitano della nave, il capitano della nave può portarci. Il punto è che non pensi che possano essere in grado di fornire protezione a tutti a tutti i membri dell'equipaggio, cioè è una cosa proprio di questo livello. Sono inutili. Beh, anche o almeno lui personalmente dovrebbe tipo magari provare a fare arrivare la vostra richiesta ai piani alti, magari in qualche giorno si potrebbe organizzare. Perfetto. Una nave mi diresti dov'è stata l'ultima volta che avete sentito, avvertito la presenza di disturbo della forza, diciamo. Lui dice che effettivamente non ci sono state vere e proprie segnalazioni di Zentari. Grazie al cazzo. Però tipo si sa che è meglio evitare certi vicoli della zona portuale, soprattutto di notte. E te ne indica uno, cioè, non so, via degli orefici. Voi pensate al piano alternativo, io mi dirigo verso il vicolo che mi ha indicato. Basta, via degli orefici. Buona giornata. E vedi che è abbastanza sconvolto da questa tua da questa conversazione. Sì, ma io sono tipo felice in realtà. Tipo come se fossi in un posto di giocattoli, perché posso uccidere chi voglio per la giustizia di Foltus. Bene, voi siete stati con lui durante questa conversazione? O? No, io rimango lì vicino alla nave che ho spaccato, rimango lì nei pressi, però senza dare molto cercando di non dare molto dell'occhio, cercando magari di aspettare se c'è qualcuno, che ne so, se arriva qualcuno, insomma voglio assicurarmi che il capitano non crepi malissimo. Okay. Ah, ho capito, usiamolo come esca, ci sta. Esatto, questo volevo fare. No, ma nel senso che noi saliamo sulla nave adesso. È quello che volevo fare anch'io in realtà, però vabbè. O ancora meglio, andiamo a dire in giro che saliremo sulla nave presto. Possiamo fare così, allora, qualcuno si nasconde sulla nave e aspetta che arrivino questi tizi. E un paio di persone invece vanno in giro a dire ci stiamo per imbarcare, eccetera, eccetera. Tipo... Perché così quelli arrivano alla nave e già ci siamo noi e li veniamo, insomma, i tizi Zentari. Sì, o loro danno fuoco alla nave e poi noi li seguiamo. Anche. è un'altra situazione comunque ottima per noi. Oppure la fanno saltare in aria. Vabbè, intanto che voi fate sta cosa, io mi avvicino al vicolo dove dovrebbe esserci. Ok. Ok. Ditemi solo un secondo cosa fate voi, i quattro della nave. Anzi no, Gallifrey è andato con John, perché così. No, Gallifrey è andato dal teletrasporto. Va bene. È andato da... cosa del teletrasporto? Questa è la mossa per levarsi dal cazzo. Gli altri tre dell'Ave Maria cosa fanno? Io pensavo di... Spiegatemi bene, perché non sono riuscito a visualizzare bene la scena. Allora, la scena è questa. Cioè, il piano teorico sarebbe che uno di noi o due di noi salgono sulla nave e si nascondono. Cioè, salgono furtivamente sulla nave e si nascondono in un posto strategico. Tipo, che ne so, vicino alla cabina del capitano, dentro la cabina del capitano, non lo so, uno o due di quelli rimasti, insomma, va in giro a dire, ah, ci stiamo per imbarcare su questa nave, cioè tipo in locande o in altri posti, stiamo per partire con questa nave, non lo so. Ok, chi fa cosa? Allora, se c'è il tipo losco, cioè, devo dire che... voi siete sulla nave e... allora tu sei un ladro, direi che nascondersi, fare imboscata teoricamente dovrebbe essere la tua ma specialità. Anche il druido va alla grande perché ti trasforma in qualcosa che entra da... quindi direi che Edoardo può fare l'esca, il bait, diciamo. Va bene, e se adesso trovo lo stronzo nel vicolo gli dico che il capitano non si è impaurito e noi ci imbarchiamo. Esatto, digli che il tuo capitano alla fine non, cioè, l'hai convinto anche tu, Edoardo. Va bene, allora io torno nella locanda dove eravamo prima e dico che ci imbarchiamo, cioè parlo con magari col tipo, con Darv a voce alta, dico ora ci imbarchiamo. La cosa così delirante non si aspettava. Sarò sincero, non del tutto. Allora, vediamo una cosa alla volta. Chi cerca di introdursi come sulla nave? Noi due. Sì. Voi due. Ok. Allora, quali sono le vie d'accesso in questo momento? In questo momento? Letteralmente solo il pontile, cioè la passerella che hanno messo dal ponte della nave al ponte del porto, sì. Su cui stanno camminando indaffarati svariati uomini. Vabbè, ma passiamo per, cioè ci buttiamo in acqua. Ci buttassimo in acqua, andiamo a arrampicarci dentro la cabina del capitano. C'è qualche porta aperta, qualche finestra? Allora, questa è una nave mercantile, non ci sono, non è che ci siano tutte queste grandi cabine. C'è tipo la saletta del capitano, quella sotto al timone, dove il capitano, con qualche finestra abbastanza piccola, perché è una nave e tipicamente le finestre sono piccole e chiuse perché non si vuole fare entrare l'acqua. È una nave abbastanza grande, quant'ha di equipaggio? Avrà una... con voi inclusi dovrebbero essere tipo una quindicina di uomini, se andavate con loro. Avrà gli alloggi degli uomini, estremamente. Sì, ma gli alloggi degli uomini in una nave mercantile, soprattutto, sono nella stiva, con tipo 10 brande una sopra l'altra. E... sì, vabbè, però loro possono entrare e stare... domanda. Nel deposito, del la domanda è semplice. Allora, oltre alla passerella ci saranno altre vie d'accesso letteralmente, cioè dei boccaporti, delle finestrelle, dei buchi per i cannoni, delle, non lo so, e questo è il punto. No, non ci sono cannoni, è una nave mercantile, non ci sono cannoni. Vabbè, ma si dovrà difendere in qualche modo almeno un cannone. Vabbè, ma ci sarà sopra. Praticamente le acque sono sicure da qui a... e questo è il punto, non ci sono troppi pirati. Non siamo mica pirati. Non sono pirati, non sono, no, una nave da guerra. Però c'è, nel senso, voi potete passare dall'acqua, tipo Jacopo può salire in qualsiasi forma animale, e tu sei un cazzo di ladro, non puoi nasconderti come le persone normali e girare furtivo. Se passo da fuori dovrò entrare da qualche parte. Fingerti uno dove che parte. No, tu resti. Mi metto dentro un barile e mi faccio caricare su. Tu resti lì, cioè tu resti sul pontile e ti nascondi sul pontile, cioè ti nascondi lì al molo, cioè non, tipo non ti fai vedere, cercando di arrivare il più vicino possibile, ma rimani a terra. Io divento o acqua o animale, non lo so, e entro dentro da un buchetto qualsiasi e cerco di restare il più vicino possibile al capitano. Così tu vedi se qualcuno passa dalla passerella, tipo incappucciato, qualcuno di più sospetto, e fai tipo un verso, e io capisco che sta arrivando qualcuno e mi preparo. Ok, piccola informazione tra l'altro. The causa buco fatto da Pyre nella chiglia. Sembra effettivamente riuscite a capire, stando lì nei dintorni, per quanto il capitano non apprezzi che voi stiate lì nei dintorni, riuscite a capire che il viaggio è stato posticipato di almeno un giorno, se non di più. Easy. Fare i buchi serve. I buchi. E tu arrivi alla locanda, invece, Pyre, e cosa fai? Va bene, come piano. Io diciamo che faccio finta di essere tornato alla locanda per salutare il mio vecchio amico Dave. Dave. E dico, non ci vediamo per un bel po' di tempo ancora. Ora sto partendo con la mia troupe, squadra, boh, non lo so. E lui ti accoglie caloroso dicendoti, è stato un piacere rivederti, Pyre, quando vuoi, torna qui. Oh, e tra l'altro fai attenzione, qualche brutto figlio di... è venuto a cercare di minacciarmi qua dicendomi, se vengono buttateli fuori, penso si riferisse a voi, perché aveva anche con voi a quanto pare, con te e la tua compagnia, sembra che stesse, tipo poco dopo che siete usciti stamattina. Minchia, ma questi qualcuno... non so avere un indirizzo. Qualcuno è venuto qua e sembra aver tipo messo in giro la voce che il mischiarsi con voi, aiutarvi o cose del genere possa portare problemi, ma che ci provino soltanto quei brutti. Tu metti in giro la voce che noi precari in nanico. Come, scusami? Tu metti in giro la voce che noi partiremo domani. E che aspetto avevano questi tizi? Erano incappucciati? Sono sempre incappucciati, Pyre. Ed erano sempre. Erano due? Erano uno alto, molto grosso, e uno più. No, erano un gruppetto di tre persone, tutte. Ah. Tutte persone, sai che mi sembrate tutti alti voi altri. Effettivamente. Bene, allora spargi questa voce e buona fortuna, ci becchiamo alla prossima. Quando vuoi, Pyre. Bene, me ne vado. E ok, te ne vai. Poi faccio, cioè, diciamo che ripercorro la strada dalla taverna al porto, però facendo un po' di strade a cazzo, cioè insomma, non facendo una strada lineare, ma facendo un po' in quella, cioè tra virgolette esplorando la zona. Ok. E nella casualità, proprio, esplori un po' i vicoli, a un certo punto ti trovi anche, senti un'altra persona che sembra più o meno dirigersi dalla tua stessa parte, e ti incroci con John, che più o meno la zona che state cercando era quella. Andiamo, qua c'è un tizio del mafioso con cui dobbiamo parlare. Ho saputo che hanno minacciato anche Dubs, il capo della, cioè il proprietario della taverna. Bene. Prossima volta fagli lasciare un messaggio, digli tipo ci incontriamo al porto, oppure vi diamo fuori. Quello che ho fatto. Oppure, ok, ottimo. Ti ammazzo la madre, vi stupro il padre, queste cose. Easy. Ok, voi volete continuare sulla strada del... Sì, quella strada dei vicoli. C'è un tipo losco, un tipo... Ok, mi... Aspettate un attimo. Tra l'altro immagino che se uno di loro mi vede... Ok, qual è la vostra percezione passiva? Scusate. Oh no, beh, siete attivi, quindi fatemi un tiro di percezione. Che comunque è poco. Molto poco. Infatti. 2. 17. Ottimo, ottimo. State giusto entrando in quest'altro vicolo leggermente più buio degli altri. Ed effettivamente in fondo adesso vedete una figura, sembra tipo avvolta in un mantello, in un cappuccio, appoggiata a un muro. E Spavaldi, decidete di avvicinarvi. Vediamo se sto tizio ci ha notato. Non sembra muoversi, non sembra minimamente interessato alla vostra presenza. Ok. Ah, niente, andiamogli incontro. Mm-hmm. Come vi avvicinate? Chi è davanti? Che è un vicolo abbastanza stretto, non riuscite proprio a stare uno a fianco all'altro. Io prendo lo scudo, la spada, mi avvicino e davanti. Ok. Perfetto. Siete... Un attimo solo. Ciao, cerchiamo Mario. Gianni, vecchio Gianni. Vecchio simpatico Gianni. E John faccia di cazzo. Arrivo, eh. Sto cercando una cosa che non trovo, perché non la trovo. Arrivo. Scusate. Sono quasi. Eccomi qua. E voilà. Eccoli qua. Freddo cane. Paire, dimmi. Domandina. Con un 21 batte la tua classe armatura? Sì. Ok. Allora, vi state avvicinando a questa figura incappucciata di nero? Quando, Paire, tu, quando John si accorge di un rumore alle vostre spalle, ma Paire, tu non sei altrettanto attento. E senti un dolore lancinante alla spalla destra. Oh. John si volta e vede tre figure dietro di voi, bello. Una delle quali ha appena piantato una spada corta nella spalla di Pyre, che nel caso se lo chiedesse, subisce 19 danni. Merda. Ma fammi capire, il vicolo è molto stretto, si passa una volta? Non ho ancora finito. Dovresti anche farmi un tiro su Costituzione, Pyre, per favore. Che troia. No, anche avvelenata. 20 naturale. Dimenti. Cazzo, ci ho fatto, faccio 20. Che cazzo sta tirando? Ok, sono altri 8 danni, mentre senti un bruciore intensissimo alla spalla che poco a poco si sembra dilagare nel tuo corpo. Mi coglione. Ok. John, a questo punto direi tiratemi iniziativa. Dai, facciamo che anche io e... Federico ti aiuta perché arriva un tizio nemico e combattimenti in parallelo. Invece no. Un attimo, invece no. Volevi fare il sottomesso BBBBB. No, da pestare. Già. Arrivo. Paire, quanto hai fatto? Cosa? Iniziativa. 13. Ok. Ok, 13. Va bene. John? Sempre 3. Sempre 3. Ok. Perfetto. Questa figura, che con un 20 naturale sorprende alle spalle Fire, è seguita a ruota. Siamo in un round di sorpresa, quindi... Ma scusa, John, sorpresa, io li ho sentiti. Sì, infatti, John, tu agisci. Sorpresa per Pyre, che non se ne è accorto. Quindi Pyre deve saltare un turno, purtroppo. E purtroppo sembra essere preso di mira da un'altra di queste figure, che però, essendo troppo lontana, gli tira, una gli tira un dardo da una balestra. Con un 15... No. Colpisco? Maledizione. Le nuove armature avete fatto bene a prenderle. Eh? Vabbè, anche con la vecchia mi sa che qui non No, esatto. A questo punto, di nuovo, sempre dietro di voi, perché vi siete voltati a raccogliere le vostre tre figure, la figura appoggiata al muro risponde alla vostra presenza e tira un altro dardo, però stavolta su John. Sempre 15. John però riesce a parare il dardo con lo scudo. John, tocca a lei. Allora, io dico a Pyre intanto che uno deve rimanere vivo, che deve andare a dire agli altri che noi li smazzoliamo quando vogliamo. Avrei voluto come mettere un po' sulla, di quello che mi ha tirato il dardo, quanto è lontano? Sarà 5 metri da te. Quindi io posso avvicinare e spammargli addosso tutto quello che ho. Sì. Ok. Se lo desideri. Allora, Lucky. Sono dal fumble. Sette, 27? No, anzi, 26? 26 colpito. No. E 27. Colpito. Ok, lo smito. Okay. Devo controllare però una cosa che non mi ricordo lo smite. Tu ti ricordi quanti di 8 aggiungo? Tipo 2 più 1 per livello di incantesimo. Ah. Aspetta, ci guardo io. Allora, di smite. Un di 8. Un di 8. Ah no, questa è improved. Come si chiama? Divine Smite. Divine Smite. Sono 2 di 8 più 1 di 8 per il livello della spell. Esatto. Ok. Quindi si piglia... un massimo di 5 di 8. Cosa vuol dire un massimo di 5 di 8? Fino a un massimo di 5 di 8. Ah, ma io... è perché spell del... cosa? No, no, ma io non ho così spell. Allora, sono 3 di 8 più altri 2 di 8, 5 di 8. 8, 11, 11, 17, 18, 22, 22 più 8, 30, scusa, no, non più 8, ho detto una cazzata, 22 più sono 4 di forza, quindi 5, 22 più 10, 32 danni. E la Madonna! Complimenti. In azione bonus vi dico, aspetta, arrivo. Vedi che l'uomo urla di dolore con la spada, sì. E poi aspetta che parli, aspetta. Quindi allora stronzo, non vedi Foltus ti ha marchiato, e gli faccio e lo prendo di mira. Ok. Tornando un attimo a quelli che si stanno divertendo tanto alla nave, cosa che fate voi? Vedi a splittare il party, cosa succede? Ho detto che lui si nascondeva sul molo e io cercavo di entrare nella nave in forma tipo di gatto o di acqua o di topo. O di topo, oh, di topo, ha senso. Ok, tu trovi un posto appartato, diciamo, magari a meno che non vuoi trasformarti di nuovo in mezzo stavolta, alla stavolta direi che mi ficco proprio nel posto più buio e poco battuto. E ti trasformi in un ratto. Io sto fuori. Dimmi tu cosa. Dentro un barile. Dove hai visuale, ma vedi che Purtroppo tipo così. Vedi che sembra che tutti i barili che vogliono mettere sulla nave siano sigillati. Marco, dove ci entro dentro, cazzo? Una nave mercantile, non lasci i barili aperti per portarli via. Molo, non devi farti portare dentro. Stai sul molo, mettiti in un punto nascosto del molo e... Puoi aprire una cassa a ficcartici dentro. Ma perché? Ma saranno sigillate anche quelle, come sono i barili. Sì, ma sigillate sono... con cosa? Hai tipo un pugnale, lo apri e ci entri dentro. Nel senso, sono chiuse con i chiodi, sono inchiodate, non sono aperte. Ripeto, lo schiodi e ci entri dentro. No, do troppo nell'occhio poi. Comunque io divento un gatto, perché i gatti sono utili su una nave. Perché okay. Ok. Vabbè, ma non mi posso... nascondere tra le casse. Tra le casse? Io non so se il tuo gufo è impagliato o no, però potresti dire al gufo di sorvegliare il tipo mentre tu sei un po' più distante. Ma sto molo com'è? Cioè nel senso... Vabbè, dove sto io? Se magari non c'è nulla per nascondersi... E no, vedi che adesso gli uomini hanno anche un po' smesso di portare le casse sulla nave perché appunto il viaggio è stato rimandato di un giorno, quindi... Vabbè, allora posso stare lì tra le casse. Si sono messi. Se nessuno le caga. Sì, nel senso adesso gli uomini sono meno interessati a portare la roba sulla nave, sono più interessati. Adesso c'è chi se n'è andato perché appunto il viaggio è stato rimandato. Qualcuno sta invece aiutando con le riparazioni della nave. Ok. Niente, quindi divento un gatto e salto sulla nave. Tipo c'è una corda della, o la catena della, dell'ancora, non so. Non c'è tipo una corda che la lega al molo? Vedi che nessuno degli uomini ti caga minimamente, puoi anche salire dal pontile. No, vabbè, il pontile è un po' troppo, diciamo, visibile. Spocchioso. No, ci sono le corde, puoi benissimo salire usando una delle corde usate per fermare la nave al molo. Niente, salgo sulla nave e cerco di seguire il comandante tenendomi pronto. Se vedo una figura che si avvicina... Fammi un tiro di acrobazia come gatto per vedere se riesci a usare bene le corde per salire. Giusto per rendere più eccitante anche questa parte dell'avventura. Acrobazia con destrezza... Ho fatto 7. vedi che purtroppo... prendi un pochino male la corda della nave e cerchi di aggrapparti, puoi farmi un altro tiro di acrobazia per un tiro salvezza sulla destrezza per cercare di restare aggrappato con le unghie. 8-10. Riesci anche in questo caso a tirarti su e arrancando un pochino, non proprio il gatto più agile che si sia visto, ma riesci a salire sulla nave. Ok, niente, seguo il capitano, cioè il comandante, dovunque va, cioè tenendomi un pochino distante giusto per non fare troppo il gatto strano. Niente, c'è il capitano, vedi che adesso è chiuso nella sua cabina un po' tipo con le mani tra i capelli pensando al da farsi, vedi che ogni tanto sorseggia da un bicchiere pieno di... Mi siedo sul tavolo e faccio le fusa. Cercando di stare un gatto. Mi ci rannicchio, tipo, cioè, mi raggomitolo, faccio finta di dormire. Ok, fai quello che fai. Beh. Il capitano se ne accorge, fa qualcosa. No. Non mi paga. Vabbè. Tornando al vivo della battaglia. Tocca di nuovo a loro, perché... Quindi... Fire, tre di loro tirano su di te. Cazzo in realtà tu. Sì. Ho scordato una cosa, perché sono un coglione. Che cosa? Heavy Armor Master, ma solamente, cioè anche quando ti colpiscono a te? No. Solo quando, cioè solo per deviare i proiettili agli altri. Heavy Armor Master qual è? No, funziona solo a te, sì. solo a me. Ah sì, è quello che ti riduce di 3 il danno, no? Esatto. Ok. Riduci di 3 i danni subito. Esatto, sì, mi sono scordato di averlo, ma l'avevo scritto. In realtà non, come faccio ad averlo? L'hai preso come fit, probabilmente. Hai fatto di talento. No, ma in realtà no. Magari hai preso quello come talento, invece che l'Aki. Invece di aumentare la forza. No, secondo me c'è avuto un qualche altra cosa. No, è vero, mi sa che lo... Allora mi sono scordato di aumentare di 1 la forza, mi sa. No, forse hai preso invece che aumentare la forza quella roba lì. Ma il Armor Master ti permette di aumentare di 1 la forza. Sì, esatto. Aumenti di 1 la forza e... O forse l'ho già aumentata. Vabbè, sti cazzi, non me ne frega niente. Mi sono scordato prima, mi attacco al cazzo. Ok, ci sono. Okay. L'hai preso a livello 1 quando hai creato... Sì. No, perché tu sei Minotauro, quindi... Sì. Cioè, da qualche parte l'ho preso, però non mi ricordo. L'hai preso al quarto livello, probabilmente. Sì, probabilmente. Allora, Pyra. Dimmi. Quello che ti ha coltellato nella spalla prova a colpirti con 2 spade corte, facendo vediamo, con un 17 e un 20, non naturale. Mi prende con tutti e 2. Okay, anche col 17? 17. Ah, ok. Ah. sono 7 danni da taglio. Anzi, no, scusa, in realtà sono 3 e 0 perché ha fatto 6 e 1. Okay. Però mi devi fare 2 tiri di salvezza su costituzione. Ok, Dieci e 14. Ok, sono altri 13 danni di veleno. Merda. Ah, sto tizio mi ha shottato praticamente, non ho molto. Vedi che prova gli altri 2 con le balestre provano a colpirti, ma i dardi. Scusa, ma hai finito? Sì, sì, sì. E non i dardi finiscono. I parri, riflessi. Sì. Sì. Sì, infatti. E 2 dardi finiscono contro il muro. John invece viene un altro di quelli che erano apparsi da dietro di voi, prova a colpirti con una balestra con un 15, però speriamo di no. Ma quanti sono? 3, 4? 4, fino a che dietro l'angolo non spuntano altri 2 per un totale di 6. Yeah. Già, vedete, separare il gruppo. E questi altri 2, uno ti carica, cercando anche a te di colpire con 2 spade corte. No, proprio no, poveretto. E un altro ti tira un altro dado da balestra, ma non ti prende. Vabbè, quando dovete impegnarvi, io perdo il tour a sfotterli. Fire, ops, Fire, tocca a te. Allora, bella martellata sul grugno a tutti, porca puttana. Il problema è quanti punti ferita hanno, perché se quello con 32 PF non è morto È quasi a terra tecnicamente, è quasi andato lì. Ed è quello che è vicino a Salla, però, cioè che è vicino a John, non vicino a me. Sì. Allora, allora, facciamo così. Muoie Pio Tarik. Muoie Pio Tarik sul serio. Aspetta, non mi ricordo che cazzo è Sweeping Attack, un attimo. Tornando, mentre tu pensi, tornando alla nave, Barba Gianni, che fai? Lì era arrivato qualcuno al molo. Come ho detto, gli uomini non badano più le casse adesso, stanno tutti... Ma qualcuno di sospetto, tipo... Ah, qualcuno di sospetto, no. Vabbè, noi non facciamo niente, perché non è che sappiamo cosa sta succedendo di là. No. Oh, è rullato. Dai, un punto di ispirazione per Federico. Era verdetto una cosa. Era verdetto non faccio nulla come il resto della serata. Vabbè. Però non faccio nulla ruolando. Va bene, mentre Paire pensa io faccio... Tanto tocca a me dopo. Ci sono, vabbè, sì, ci sono volendo. Allora, vai. Dai, pure. Allora, secondo me è un'azione bonus tanto. Allora, io faccio... estraggo il martello e smartello il primo che ho davanti. Mm-hmm. Intanto ti ricordo che hai già usato il tuo potere del martello per oggi. Sì, però diciamo, lo so, con un 15 non lo prendo, immagino. Con un 15 invece lo prendi. Ah, lo prendo, cazzo. Ah no, che poi sarebbe 16, vabbè. Lo prendi anche con 16. Però più motivi. 10, gli faccio 13 danni. Mm-hmm. Però intanto uso Second Wind. Sì. Vorrei mettere un po' di musica. C'è nessuno che ha un po' di musica d'azione? Per entrambi i danni, cioè gli attacchi. Hai due attacchi. Uno non l'ho preso. Come fai a dirlo? Dimmi quanto. Ho fatto 9. Ok, non l'hai preso. Magari, che ne sai? Magari era lo sfigato del gruppo che... Poi però uso Action Surge. Bravo, cazzo. Mm. E lo rismartello un'altra volta. Sta... Due volte? Due volte. Due volte. Esatto. Allora, però con 22 immagino di prenderlo. E con 25 pure. Questo parla, porca puttana. Allora, questo ritiro. Ho detto che era easy sto incontro. 12. E gli faccio 20 danni. Però. Poi. Quanti danni hai fatto in totale? 33. Sono grossi. Ce n'è un aspetta, ce n'è uno lì vicino che è in corpo a corpo oppure c'è solo lui? Cioè, siete più o meno, tu sei più o meno attaccato a John e c'è lui in corpo a corpo con te. Ok, no, dietro, tu devi abbatterne uno, camminargli sopra e abbatter l'altro, camminargli sopra. Vabbè. Cioè, se mi chiedi se puoi usare lo sweeping, no, cos'era quello? Esatto, sì, lo sweeping attack. No, purtroppo la vedo due. L'altro è dietro di te. Ne ho due addosso. Sì, no, in realtà tu ne hai uno. No, anche tu ne hai uno addosso. Ho detto ha caricato l'altro, quindi volevo dire che ti era quello di prima. Sbagliato io. Dobbiamo avere le miniature. Mm-hmm. Perché è un vicolo abbastanza stretto e riuscite a malapena a stare uno a fianco all'altro. Ok. Il loro numero non conterà nulla. Cazzo, è come i 300. Hanno le balestre. Vabbè, le balestre sì, anche in 300 vanno le balestre, ma si chiamano lo stesso. Posso agire io? Certo che puoi agire. Ok. Sparta sul tizio qua davanti. 19, no, guarda, non uso neanche il vantaggio. Ok. Vinto tu. E sono 7, 8, 12 danni. Ok, il tizio è giù. Ok, mi muovo verso quell'altro, gli faccio anche tu, sei Poltus terminato anche tu, e gli faccio Hunter's Mark con l'azione bonus. Perfetto. E poi gli do una spadata. E Lucky. Gli hai finiti, mi sa? No, ne ancora uno. È vero, perché era ieri tecnicamente, credo. Ok, sono 16 più 8. Penso di averlo colpito. Mm-hmm. E sono dunque 12. No, aspetta, sì, 12, 13. Sono 12, 18 danni. Però anche con l'Hunter Smart? Sì. Calcolando l'Hunter Smart. Era un di 8 e un di 6. Io lo so, lo so. Aspetta. Vediamo se... No. Aspetta. Volevo vedere... Se metto una musica da YouTube si sente, perché sennò... Non so se è in casino la registrazione, però forse... vabbè, fa niente, forse no, fa niente. Forse... Ah, perché tu però l'ascolti dalle cuffie. Mi sa di questo. Ma vabbè, niente. Non sento niente. No, l'unico modo è se io la metto. Dimmi che cosa volevi mettere? No, una musica da battaglia, perché sennò si ci sta addormentando. Ok. Una buona fine. In qualche modo riuscite a tenere testa ai vostri assalitori. Cioè, il modo, se vuoi te lo spiego. Riuscite a tenere testa ai vostri assalitori. Tuttavia non sembrano retrocedere di un passo e anzi vi caricano ancora di più. Quando, da dietro di voi, inteso da dove siete scesi nel vicolo, sentite arrivare un altro urlo. Non di dolore stavolta. No. No. No. No. Un pochino. Più o meno. Vabbè, niente, rimarrà sottofondo, sono anche sul microfono. No, perfetto, dai, così va bene. Se tieni così. No. Sto questo urlo. Va bene, fa niente, non importa. Siete arrivare un urlo dietro di voi, non di dolore, ma di battaglia. E... Sì. E tu, Pyre, vedi il capitano Liva che si getta su uno degli assalitori. Dai, ma... Non c'era bisogno. Non c'era bisogno. Dai, non mi hanno neanche toccato. Uno di quelli che ha sparato con la balestra a Pyre viene trafitto da un fioretto. Fate del capitano. Sì, uno deve rimanere vivo, ve lo ripeto. E la senti gridare Pyre! Non posso gridare troppo perché mi sa che adesso qua si torna. E di nuovo si ricomincia. Quello che addossa Pyre cerca ancora di mazzarlo da bot. E lo colpisce facendo un critico. Pyre, c'hai una sfiga stasera, Pyre, che cazzo. Ok. Allora, sono già diminuiti. Già diminuiti i danni fisici, sono 3 danni fisici. Ho già tolto i anche. Tra l'altro. Però vabbè, li paro, dai, anche se sono 3, però magari No, cioè se pari come funziona la parata? I danni. Sì. Però penso che posso fare solo i danni da arma, non credo quelli da veleno. Quelli sono da arma, no? Sì. Vabbè, sì, quelli da arma l'ho parati tutti, insomma. Va bene. Poi mi fai 2 tiri di salvezza sulla costituzione. Ok, arrivo. Diciotto. E 20 naturale. Perfetto. E sono altri solo 11 danni da veleno. Considerando che uno era un critico, non ti è andato troppo male. Quanti punti feriti hai? 5. già. Quello che prima si era aveva sparato a te cerca di colpire la nuova arrivata. E riuscendo qui anche. Ok. Allora. Povera Liva. Dai, dimmi che va giù appena arrivato. Madonna, ma deve arrivare. Ma che va giù appena arrivato? Lei subisce il colpo. però sembra continuare a combattere con estrema determinazione. Prima un po' sbagliato l'iniziativa. Pirate, tocca a te. Ok, smartello il tipo che ho davanti. Vabbè, 26. Però con 10. Con 10 penso di no. Con 10 purtroppo no. Undici danni. Il tipo va giù. Ok. Scusa. 4. Considerando. Ma torniamo un attimo alla nave del capitano. Bisognerebbe anche trovargli un nome. Immagino che adesso sta dormendo. Tu? È passato qualcuno? Gino, tu ti sei un po' addormentato sul tavolo del capitano. Pochino. Il gatto che è in te si è un po' appisolato. Esatto. No, però sto comunque attento appena qualcosa si muove a saltare sull'attenti, diciamo. E Barbagianni, non so che cazzo fai. Mi alza le mani lui. E ha mani al cielo! Energia di tutti. Esatto, energia sferica. E la telecamera si sposta di nuovo sulla battaglia. Ma perché fai questi cambi di telecamera, Marco? Perché spera che tu giochi di ruolo una volta all'anno. È per dare ritmo all'azione. John, per dare... che cazzo, John? John, 18? No. Ma dai! Raga, io ho 20 di classe armatura, non so che cosa vogliono fare. Di qua mi hanno tirato un 3, un 11, no, un 12 e un 1 contro John. E poi, sì, poi ci chiediamo perché John non va mai giù. Io ho 20 di classe armatura, anche se avesse fatto... Complimenti, che vuoi che ti dica? Niente, hanno finito, ci hanno provato, hanno provato a colpirti. John, tocca a te, se vuoi fare. Io gli dico, prova a impegnarti un po' di più. 20. Rimane abbastanza impressionato dalla tua... No, 20 nel colpire. Ah, ok, pensavo 20 naturale. Allora, uno... Cioè, 20 naturale nel colpire, sì. Ah, infatti. Ah, sì, no, scusa. E allora rimane abbastanza impressionato. 7, 11, 5, 16, 20, 21 danni. Rimane meno impressionato quando la tua spada praticamente gli trapassa gli intestini e okay. Il dolore lo fa. Gli altri sveglioni non ci arrivi. Che cosa? Cioè, a colpire gli altri non ci arrivo. No, cioè in corpo a corpo c'hai solo lui. Okay, gli altri c'è spazio tra di loro. Se hai qualcosa a distanza si può fare, sì. Okay. Uso l'azione bonus, faccio Misty Step di fianco a loro e do l'altro attacco a uno di loro, tipo quello su Pyre. Ok, puoi metterti tipo in mezzo ai due che sono da Pyre adesso. E... Okay, 18. Hai preso. Sono 4, 6, 7 danni. Ok. Questo era quello che... Volevi colpire quello che aveva colpito Liva o... No, quello che ha colpito Pyre. Quello che ha colpito Pyre è morto. Ah, allora... Quello che non ha colpito nessuno. No, quello che ha colpito la tizia. Ma dopo ne rimane... aspetta, rimane. Quello che ha colpito la tizia è un altro, giusto? Ne rimangono 4 ancora. Uno l'ho seccato. Ci sono le balestre, i balestieri ci sono. Erano 6 in tutto. Ne hai ucciso uno tu, uno Pyre. Ma io ne ho uccisi 2. No. Sì. Quando? Il primo l'ho eliso facendogli tipo 32 danni più altri 20 danni. Sì, esatto, quello è morto. E un altro adesso? No, un altro non era morto. Era ancora in piedi. Allora perché ho fatto Misty Step? Non lo so, dimmelo tu. No, non ti ho detto che era morto. No, io avevo capito che quello crepava. No, allora l'altro attacco va a lui. Ah, no. Allora, allora l'altro attacco è andato a lui e lui è crepato, sì, stavolta. Ah, beh, allora ci siamo. Ha tutto un senso. Sono problemi di comunicazione. E allora l'azione bonus la uso per fare per marchiare uno degli altri che non ha ancora subito. Giustamente. Vuoi Ok, quello, l'altro dei tuoi praticamente, perché eravate 3-3. Sì. E... un po' livelli la mossa Mark per far cagare addosso quello a cui la fai, tipo. E resta. In realtà il primo attacco che do lo smaito sempre a manetta, perché spero che facendo tipo 50 danni su una persona gli altri si caghino sotto, ma non funziona mai, non so perché. Magari un giorno, magari quando sono assassini addestrati. La tipa continua a massacrare quello che ha addestrati, quello che ha davanti a sé con il suo fioretto, e vedi che nella mano che ha libera tiene una balestra a colpo singolo che scocca contro l'altro che è ancora addosso a Fire. Ma la freccia lo manca miseramente. Siamo di nuovo sopra. Pyre, quello davanti a te ce l'ha proprio con te. No, quello davanti a te l'hai ucciso. Scusa, quell'altro che gli stava dietro adesso ce l'ha con te. Con un 16? No. Però con un 25, sì. 5, sì. Hai 5 di vita, hai detto? Sì. Bene, gioco solo io questa sessione. Prendi 2 danni fisici e mi fai un tiro salvezza sulla costituzione. Già sottratti i danni fisici? Sì, già sottratti. Ah, beh, uso ancora Perry, cioè, nel senso. Ok, non subisco danni fisici. Ok. Ci sta. 19, 20. Ok, no, un tiro salvezza solo. Ah, okay, vabbè, 19, okay, vabbè. 20. 19, 20, ok. Sono 4 danni da veleno. Sì. Ma scusa, non avevi una pozza tu? Ho quella di crescita. Ah, e niente di cura? Ti volevo ricordare che le pozioni di cura che avevamo, mi puoi ricordare chi ce le ha? Oddio, non lo so. Lui le ha comprate. Potrebbe essere che ce l'ha. Lui le ha comprate per sé. No, lui ha anche quelle che non ha comprato, secondo me. Ah, poi. Io ho una pozione di cura. Vedi? Ma io me la sono comprata con i miei soldi. Ok, quando anche l'IVA viene colpita da... Scusa, una... se io con i miei soldi sto comprando persone morte. Fire, tocca di nuovo a te. Io mi avvicinerei al buon vecchio John. Ah, guarda che siete praticamente schiena contro schiena. Ah, sì? No, ma io ci sono due volte. Ah, beh, okay, no. Sì, però ripeto, il vicolo è abbastanza stretto, okay, e corto. Ok, ci sta. Cioè, non prendo un attacco. La mia domanda è: non prendo un attacco di opportunità se mi sposto verso. Cioè, da quello che hai in corpo a corpo, se proprio gli dai le spalle. Sì. È quello che volevo evitare. No. Ok, vabbè. Gli faccio 7 danni. A quello che hai davanti, ok. Quello che ti ha. Ok, sicuro di non aver colpito anche quell'altro, eh? Sono 15 la loro classe armatura. Ha fatto 9. Povero pai. John, quello che è di fronte a te ci prova, ma tanto. 21. Unlucky. Ma perché? Per un attimo tipo vedi la gioia nei suoi occhi quando pensa di aver trovato un'apertura nella tua posizione di battaglia, vedi che usa tutta la sua agilità per cercare di colpirti, poi tipo scivola su una buccia di banana che era nel vicolo e la spada va a scontrarsi contro lui. Io finirò malissimo perché sono due sessioni in cui faccio, cioè due campagne in cui faccio il giocatore, e in tutte e due ho un personaggio OP palesemente e provo col master all'inverosimile, vero Jacopo? Adesso vedremo. Ma io in realtà tengo per me un commento che farò alla prossima sessione che facciamo. Va bene, e bla bla bla, e niente, ci ha provato. Lì va di nuovo, cerca di colpire il suo, bla bla bla. No, però purtroppo non riesce, no? Ok, Liva, purtroppo questo turno è stato abbastanza inutile. Fire, mi dispiace, finché c'hai quello lì davanti, lui proverà a colpire. Ma scusa, io non ho fatto niente. Ah, scusami, ho saltato il tuo turno, vai John, scusa. Allora, io do un'altra possibilità, quello davanti a me, mi avvicino a Pyre, quindi avrà un attacco di opportunità, immagino. Ok. Fatto di nuovo 21, stavolta. Può stare. Un danno fisico. No, scusa, non un danno fisico, tre danni fisici. Madonna. Tre danni fisici. E mi fai un tiro salvezza sulla costituzione. 20 naturale. Un po' di veleno ce l'hai comunque, però sono... Sono 5 danni di veleno. Okay. Senti il liquore che brucia dentro le tue vene. Sì. Ma tornando un attimo alla nave, cosa... Aspetta, aspetta, mi avvicino a Pyre e gli do 25 punti feriti. Cioè, tipo tu che gioca il cazzo di Taio sulla cassa. Io che... Pyre, John si catapulta verso di te e poggia le sue mani sul tuo corpo. Tieni, un po' di opiness. E una luce scaturisce dalla punta delle sue dita, tu senti un vigore, un nuovo vigore dentro di te. Esatto. No, aspetta, 25 punti ferita, non puoi fare solo 20? No, no, scusami, qualche cosa mai. Questo livello sarà il 5. Sì. Okay. Tornando alla nave, dicevo, che fate voi altri? Sbadiglio. No, la domanda la facciamo noi a te, alla nave, torniamo alla Gino, nave. Il capitano si alza e lo vedi uscire dalla cabina. Ok, lo seguo. Si sta dirigendo di sotto coperta. Verso ok. Verso no, sotto coperta. No, sotto coperta, sotto coperta. E lo vedi... ravanare, tipo cercare in mezzo alle casse che sono state scaricate. Ok. E rimane un attimo in silenzio a guardare. E poi tira fuori un secchio e ci piscia dentro. Perché... Alla cassa? No, tira fuori un secchio che usano come tipo latrine e poi ci piscia dentro. Interessante. io lo guardo proprio incantato. Mi sei della natura proprio. E alla battaglia di nuovo. Torniamo alla battaglia. Torniamo alla battaglia. Riflessione fuori, dovremmo prenderci un cazzo di coso per comunicare. Un combling. Non splittare il gruppo, per esempio. No, splittare il gruppo va bene in questo caso, però cioè se tipo ci fosse un gufo, per esempio, certo. Ma non è addestrato così bene. Ci parlo io. Potrei lasciarti. Il gufo non è il tuo famiglia. No, è un gufo. No, non è un gufo. Preso l'incantesimo fanfamiglia. Marco, domanda: se io dico a un animale, vabbè, in questo caso il gufo, vai a trovare Salla. Sì, in teoria potrebbe come Animal Messenger, io gli devo dire dov'è Salla o lo sa lui dov'è Salla? Se gli dico Salla precisamente con Animal Messenger, se tu vai Speak with Animals e parli col cazzo di gufo di no, Speak with Animals sono stupidi, io c'ho proprio la magia che si chiama Animal Messenger che fa sta cosa, cioè tu dici all'animale vai a dire questo messaggio e lui proprio lo ripete esattamente come lo dico a questa persona e poi torna indietro, però sono io che mando un messaggio, capito? Non al ritorno. No, non ti serve sapere dov'è Salla, devi solo... Sai, okay. Devi sapere la zona in cui è, e lo sai, e devi sapere la descrizione di John. Il problema è che a me arriva il messaggio in cui dici siamo in nave, e io intanto dico vabbè... No, ok, però posso dire al gufo, cioè posso attivare questa magia all'arrivo del gufo o devo dirglielo prima? Cioè, non posso farmi rispondere, tipo, dal gufo, come se fosse... Però sai cosa puoi fare? Ah, no, è solo andata, un SMS. Sai cosa potresti fare? Potresti fare... Dopo l'animale non può tornare indietro? Sì, metto una... Perché tu potresti dire, il messaggio è tipo, se stai bene, ammazzami. Quindi se il gufo torna indietro, vuol dire che è un problema. Allora, ok. Cioè, tu non lo faresti mai perché sei un druido, però. Possiamo fare bene, non so se stai bene. Non del tipo se stai bene, tipo legami una cordicella intorno alla tampa. Un pezzo di stoffa sulla gambetta e dico al gufo: se c'è un pericolo, mettici tipo una macchia di sangue, qualcosa, tanto sarà facile trovarla. No, conviene fare il contrario, conviene se torna con, vuol dire che c'è un pericolo, se torna senza, vuol dire che non c'è un pericolo. Un attimo, quindi un gatto c'è un pericolo, io devo perdere. No, sto pensando, cioè, se ha senso questa cosa, cioè io dico al gufo, sì. Tutto porto attento, questo messaggio a Salla e gli dico: se stai bene, prendi il messaggio, prendi il pezzo di carta, esatto, sì. Se stai male, lascia il pezzo di carta, esatto. Attaccato alla gola, ok. Ma se non lo trova, il pezzo di carta rimane. No, lo trova per forza. Animal Messenger funziona che io gli dico la persona precisamente chi è. In questo caso Sal lo conosco, lo conosce. C'è un raggio, però. Sì. C'era un raggio, sì, ma è un raggio enorme. Penso siano tipo. Quant'è? 2-3 ore di viaggio, una cosa del genere. Cioè, sono fino a 24 ore di viaggio. Ah, 24 ore, cazzo. E 50 miglia per. Cazzo. Perché non posso usare i chilometri? 50 miglia per. 50.000 yard. Va bene. Allora, un attimo, esco dalla nave mentre il tizio piscia, sperando che non muoia proprio in questo momento, e faccio sta cosa col gufo. Stacco un pezzo di carta e glielo leggo alla zampetta e faccio questa Animal Messenger che posso castare come rituale, forse. Trovi, tra l'altro... Barbagianni nascosto tra le casse. Lo trovi Barbagianni nascosto tra le casse? Sì, puoi castarlo come rituale. Se vuoi. Sì. Puoi castarlo come rituale. Vai, Edwige. Vai! Vai, fai la prima cosa utile dall'inizio di questa campagna e quella prima. Gli do un pezzettino di pane. Un tozzo di pane. Esplode. Rimane lì a beccare per altri 10 minuti. No, lo mangio e poi basta. Non gli darà mai da mangiare da 6 anni, se lo mangia in nanosecondo. Infatti è morto quel cazzo di... Ma torniamo alla battaglia. Di nuovo, gli assassini, che fare, che fanno? Assassini assassinano, che devono fare? No, per ora non è che stai riuscendo da Dio. Beh, Dio, hanno quasi abbattuto Pyre, eh? Non per dire. Oh, Pyre, il massimo che hanno fatto contro di te stavolta è stato un 11, quindi... Oh, finalmente! Ho trovato un po' di pace. Ma torniamo alla nave! Siamo alla pure pura via, cioè... Io vedo Marco e sento tirare dei dadi. No, ma questa è la povera Liva che viene attaccata. Si vede, riesce a tenere testa a uno dei due che stanno attaccando Pyre. Pyre, tocca a te. Sono una prede, quindi se ne sbatte allora, di andare di là. Direi che è ora di finirla. Il cranio c'ha fame. Tipo davanti a me. Quindi 20 e 17. Naturale? No, 20 non naturale. E si becca 22 danni. 22 danni, però. Li ha sentiti tutti, però è ancora in piedi. Ah, ma è stronzo. Vedi che... John, tocca a te. Tizio mi ha colpito. Il... Hai ragione, sto diventando tardi. No, non ti ha colpito. Sai mai te. Sai mai te. Solito. Al primo l'ho mancato. Wow. Grave, cazzo. Il secondo ho fatto un bel 16 più 8, credo di averlo colpito. Ho colpito. Sono 6, 4, 10, 11 danni. Questo era ancora abbastanza fresco, non l'aveva fatto mai. Sì, ma tanti anche avanti, questo era anche quello che avevi marchiato con il marchio del cacciatore. 47 punti ferita, io vado avanti. Ah no, adesso vado avanti pure io che mi prego. Comodo, con un po' di Liva, invece, con in maniera molto agile e con una grande destrezza, riesce a conficcare il suo fioretto nel collo di quella che aveva di fronte, e questo si accascia a terra gorgogliando sangue prima di lasciarci le penne. Solo due? Sì. Raga, uno deve rimanere vivo, cazzo. John, sei tu quello che più uccide tutti. Fire, l'ultimo rimasto ancora in piedi, prova di nuovo a colpire. Ce la fa. Stronzo questo, Questo qui non sopravvive, io te lo dico. Sono tre danni fisici. Ok. E mi fai un tiro sulla costituzione. Che testa di merda. 20, non naturale. Ok. 7 danni di veleno. Quindi 3 più 7. Tiriamo fortissimo stasera. Sto anche tipo un po' riadattando l'incontro, perché era previsto per tipo 5 persone, che per 2. Vabbè, non voglio dire, ma al massimo saremmo stati un in più, che... Cosa? Cioè, no, siete stati... In 3 noi non siamo mai. A giocare. Ah. Quindi... È pronto. Beh, bene. Cioè... Fire, se vuoi... Allora, questo qui diciamo che ha discretamente rotto il cazzo, quindi esploderà. 25 e 21. Preso. No, mi sa che è stato questo. 19 danni. E anche questo? Vuoi finirlo in qualche modo speciale o...? No, guarda, voglio semplicemente che il martello proprio sfondi la tua faccia proprio completamente. Ed è esattamente quello che fa con un bello swing da fuori campo. Esatto, proprio che si sente proprio... Il martello lo attraversa e si schianta poi contro il muro. E... Benissimo, sono contento. John, il tuo è l'unico rimasto in vita e... Vista la situazione, cerca di scappare. Disingaggia e... aspetta, lo facciamo scappare o lo interroghiamo? Lo farei scappare. Perché lo fai scappare? Di ai suoi amici che è meglio se non si mettono contro di noi. No, non penso che sarà quello il messaggio. Beh sì, cioè, in realtà sì, perché sono morti tutti contro due persone. Piano, possiamo farlo, ma prima interroghiamolo, poi lo lasciamo andare. Tra l'altro io per loro sono praticamente intoccabile. Senti. Ok, allora faccio Misty Step e gli appaio davanti, tanto il vicolo è stretto. Sì, lo è. Davanti dalla parte opposta. Cioè, sì, per fermargli la corsa, sì. Sì, era quello, sì, pensavo intendessi quello. No, ok. Non sai mai che... E poi, niente, poi lo attacco. 14 non basta, mi sa. No. Però non ucciderlo. 20, critico. Per la punta. 10. Ricordiamoci che gli attacchi fisici possono essere dati non letali. Sì, però se è un critico, cioè in che senso glielo danno non letale? Colpisce forte sulla testa. Sono 17 danni. Tecnicamente è ancora in piedi. Perfetto. E gli dico, fermati, stronzo. Tipo gli tagli una gamba, fermati. Scappare, resistere è inutile. Liva corre verso di lui, tipo, anzi no, Liva si, no scusa, Liva si ferma a vedere come è messo Pyre e controllare se... L'ho respawnato praticamente. Vedi che non si china, sei ancora in piedi, ti riguarda, Pyre, tutto bene, com'è la situazione? Come ti senti? Riesci ancora a combinare, a combattere? Sicuramente sì, però diciamo una curatina non mi dispiacerebbe. Ok, provvederemo dopo. Va bene, cioè, l'unico curatore che hai è tra un tizio e un vicolo. E okay. Dopo usa il resto del suo movimento per correre verso quell'altro che sta scappando. Tocca a te, Pyre. Sì, anche io dico all'Iva di lasciarlo in vita. E... è abbastanza lontanino, cioè sarà tipo una quindicina di metri verso giù per il piccolo. Con John davanti, però. Ok, quindi aspetta, 15 metri quando sarebbe in fit, lo raggiungo? Sono due movimenti praticamente. Ah, ok, no, bene, faccio uno solo, tanto c'ha la John davanti, non è che può andare da qualche parte. Ok, è ancora la tua azione, cioè. No, ti conviene usare tutte e due e andarli in corpo a corpo. Vabbè, sì, ho tutte e due le azioni come movimenti e glielo do avanti, cioè di lato dietro. Ok, tocca il tizio che a questo punto è completamente intrappolato tra voi due, ha perso un po' le speranze e lo vedete prendere una fialetta dalla cintura. Vai, qua c'è il cartone di piatto, sbando con la spada. Esatto. Se qualcuno vuol provare, non so. Puoi avvelenare nel farlo, però potete avere tipo un attacco di opportunità, visto che no, io cerco di, non lo so, è più scenografico rompergli, spaccargli un braccio e fargli cadere la provetta in questo modo, oppure bloccarlo e basta. Devi vedere se lo colpisci intanto. Allora io gli do due attacchi in faccia. No, attacco di opportunità è un attacco. Ah, è un attacco, giusto. Quindi ho fatto solo 22 e l'ho colpito. L'hai colpito, cosa vuoi fare? Sono 5, 6, 7, 8, 8, 4, 12, 13 danni. Ok. Colpito la spada in faccia, non mi interessa la boccetta. Lui si accascia al suolo, però tecnicamente è ancora cosciente. Allora, io con il mio attacco d'opportunità, diciamo che gli do una piedata in faccia. No, era tipo divertente se lo tiravate insieme, se colpivi anche tu, tipo gli facevate la combo con il doppio pugno in faccia. Sì, no, io gli do la spada e lui gli dà il cartone. Esatto. Vai, Quanto hai fatto? Cosa fai con l'attacco di opportunità? Se lo colpisci? Niente, non lo prendo. E a terra, il fatto che John lo scaraventi a terra ti fa mancare il colpo, e lui rapidamente si porta la boccetta alla bocca e ingoia il contenuto. E lo vedete a questo punto ridere malignamente verso di voi. Salla, curalo! Prima di... vedete che inizia a ridere. Mi dispiace, sta continuando a ridere? E si accascia al suolo. Gli do una martellata in faccia mentre ride. Ok, sta uscendo la bava dalla bocca. Perché... Sì, non mi interessa se è morto lo stesso, gli do una martellata in faccia. Gli dai la martellata, è morto, cioè è già morto, puoi dargli tutte le martellate che vuoi, non è difficile da colpire. Purtroppo ce l'avrei avuto, ma ho usato quello che avrei potuto usare per salvare il culo a Pyre e per spararmi in faccia, ma non c'è problema, ho un'idea alternativa. Va bene. E adesso nel vicolo rimanete solo voi tre e i cadaveri delle vostre salite. Dunque, se vuoi chiudere la sessione adesso. Proprio in questo momento un gufetto svolazzando dalla... No, adesso Sala me lo uccide, lo so, farà una brutta fine. Magari. Se fossi Gallifrey lo ucciderei. No, in realtà no, perché l'hanno mandato... Una palla di fuoco. Sì, il punto è questo, la battaglia è durata veramente molto poco. L'avrei stuprato, però... La battaglia è durata veramente molto poco, perché contate che sono 6 allora secondi. Allora, mentre arriva il gufo, e poi se vuoi chiudere, io sono lì che seguo le teste ai tipi. Ok. Va bene. Vedi che... Recupero il corpo del tipo a cui ho spappolato la faccia. Mm-hmm. Vabbè, ovviamente tranne quella testa lì che non c'è. e diciamo me lo prendo in spalla e me lo porto dietro. Vedete che l'IVA rimane un attimo. Non so se abbiamo avuto la stessa idea. Un attimino. Sì, non lo so. Un attimino alla vita. La nave. Sì, più o meno la vita è quella. Comunque l'IVA si rivolge a te, Paire. Dicevo. Sì. Sapevo che la situazione sarebbe degenerata. Oh, stanchina. Questo da dire. Un fiore. Lo vedo. Queste sono le stesse persone che sono passate anche alla locanda di Dar. Sapevo che saresti stato in pericolo. Hanno fatto girare la voce che nessuno avrebbe dovuto aiutarvi, nessuno avrebbe dovuto darvi un passaggio. Quei bastardi. Ah, ma adesso vedremo come reagiscono. Qualcuno deve fargli vedere che cosa, chi comanda veramente in questa città. E io la voglio che sei Paire, non è che per caso hai bisogno di una nave, vero? Beh, oddio. Beh. E qui si chiude, sì, la sessione con l'IVA che vi offre ufficialmente un passaggio sulla sua che esplode in aria, tipo, l'IVA che vi offre ufficialmente un passaggio sulla sua nave. Benissimo. Bene, ci piace. Mi piace almeno che i finali siano più o meno da colpo di scena. No, mi piace che Marco è impazzito durante questa sessione. Perché normalmente lui è abituato a Jump, che ok, è matto, ma non così matto. No, è che questo è il punto. Forse sono io che cerco di dare un tono un po' troppo serio alla mia campagna, non lo so, magari quello, la prendete un po' più spensierata, e quello potrebbe essere un errore mio. Ogni volta io non capisco, tipo, c'è John che è paladino legale, buono, no? Neutrale legale, no? Sì, neutrale legale, che a un certo punto mi dice, seguo le teste, hai detto, ok. Sì, è straviolento lui, la violenza è l'unica soluzione. Ok, va bene, ho capito, solo ogni tanto, senso, nell'ambientazione del Faerun, non so come fare. Come far comportare la civiltà di conseguenza. A me non per interessa, cioè io... Per me l'unica civiltà è quella del Dio. Tutto qui, cioè... Scusa, poi più la che mia idea adesso è di mettere tipo tutte le teste davanti alla nave e dire questa nave è off limits. Esatto, quello che pensavo anch'io. Ok, non è proprio la cosa più... che si vede proprio da tutti i giorni a Waterdeep. No, certo, ma d'altronde un personaggio così, quando mai? Anche un personaggio così si vede tutti i giorni a Waterdeep. Va bene, signori, ho finito per stasera, non saprei che altro aggiungere. Volevo... Bene, si conclude la terza puntata. Terza sessione di Cross Destiny. Destiny, ok. E... dal titolo? dal titolo... Un passaggio in nave, non... un passaggio in nave. Vabbè, io spero che qualcuno ci ascolterà, che qualcuno si farà sentire, che qualcuno recensirà, che tipo Jump potrebbe ascoltare il podcast per sapere che cosa è successo, queste cose sì, certo. Assurde. No, c'è il famoso riassunto, lui ha fatto il riassunto la prossima volta. Beh, ovviamente. Io la chiamerei tipo una nave da perdere la testa. Detto questo, noi ci la siamo... nave più passo del mondo, come l'aereo più vede dopo Natale, probabilmente senza di me, ma spero che registreranno lo stesso. Sì. Record di punteggio solitario, io la chiamerei così. Posso chiudere la registrazione. Ciao a tutti. Ciao. Un saluto.